Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. Cari amici, questo è il grande finale di stagione del programma podcast sui videogiochi più non ascoltato della storia di IPN barra Runtime barra pre-IPN Runtime. Quindi insomma è con grande orgoglio che vi introduco questa finale di stagione, che potrebbe anche essere la finale di tutte quante le cose nel mondo, ma noi siamo tenaci e continueremo perché ci piace fare le cose che non piacciono agli altri. E quindi... Marco Gualdi. Ciao. Ciao Marco Gualdi. Noi siamo la variante Delta del podcast. Noi siamo la variante Delta. La variante Delta, infatti con l'apostrofo. La variante Delta dei podcast, delle trasmissioni videoludiche. Cercano di vaccinarsi per non ascoltarci, per buttarci fuori. Ma noi ci saremo sempre. Passiamo sempre, infettiamo, mutiamo, cambiamo. Poi a un certo punto ci rompiamo il cazzo. Bravo. Infatti anche tu un po'. Un pochetto. Basta. Okay. Ovviamente altro compagno di giochi e di avventure di questo grande, di questa grande epopea podcastiana, okay. C'è Carmine Puccio Console. Sì, siamo una roba tipo Battlestar Galactica, ma con meno mormoni, meno divinità, meno siloni, meno tutto, meno soldi soprattutto. E meno ormoni ma più ormoni, quella è la cosa più importante. Quelli proprio assecchiate ce li abbiamo. È tornato a farci visita in questa landa un po' desolata, l'abbiamo tirato dentro, detto, vuoi partecipare? Ma di che stiamo? Non ti frega un cazzo, vieni. Tanto non ci capiamo niente neanche. Esatto, il nostro carissimo amico sammarinese Diego. Ciao a tutti da Pesaro. Stavo leggendo su www.sciechimiche.novax.it che secondo un'antica profezia maya il 19 luglio 2021 dovrebbe finire il mondo, a meno che non ci sia una nuova stagione di Ludico Forum. Ah, okay. Così dicevano i maya. I maya lo sapevano, esatto. Che poi, non so se ci avete fatto caso, ma sta fine del mondo si posticipa sempre, cioè nel senso ogni... Maya sì, ragione. Abbiamo impegni. Esatto. No, perché... Fino a quando escono i libri si posticipa. No, adesso ho letto l'ultimo articolo che dice che c'era un errore di battitura addirittura. Sì, nelle iscrizioni cuneiformica. Esatto. Alcuni mai hanno detto, ma noi diciamo che dal 2000 in poi potrebbe finire. Certo, prima ogni poi, giorno è quello buono. Prima o poi può essere. Dai Maya le loro ore di battitura era punito con la morte, quindi... Anche se poi devo dire che Google negli ultimi giorni mi rimbalza sempre un articolo che la NASA ha detto che la Luna oscillerà e che entro il 2030 ci saranno un sacco dei casini. Ma anche questo i Maya l'avevano previsto, comunque. Ma no, era quello che avevano previsto. Infatti, loro già sapevano, perché loro avevano calcolato. Arturino Mazzei. Ciao a tutti, bentornato anche tu in queste lande di pioggia. Questo è sempre dal Belgium, giusto? Sì, sopravvissuto all'alluvione, alla distruzione, ai cataclismi previsti dai Maya. Perché voi vi siete portati avanti, giustamente. Poveri, comunque un pensiero a tutti quelli che insomma in Germania è veramente gran casino. Tra l'altro Marco Gualdi, quelle sono zone dove noi siamo stati. Noi siamo stati e siamo dei miracolati, perché noi siamo stati 3 stati fa, ma saremmo potuti morire. Esatto, cioè, anche questa, eravamo a quanto? A 200 metri dal fiume? No, era proprio lì, cioè, stavamo proprio a Coblenza. No, tipo, dal fiume stavamo a 200 metri, neanche, stavamo a 100 metri. Noi avremmo, cioè, siamo degli scampati alla morte. Pizzi, non ti senti un miracolato? No, però tu devi considerare che il paese dove stavamo noi si chiama Rennes. Rennes le Chateau. Quindi, no, era Rennes, che in tedesco significa morti affogati. No, significa Rennes. Era proprio il paese del fiume, che stava proprio sul fiume. Fiume, noi eravamo i primi proprio. Cioè. Infatti. Vabbè, comunque scherzi a parte, brutta storia. Mi dispiace molto, perché comunque bei posti, belle zone. No. Allora, noi dovevamo andare quest'anno vicino Chieri, ci hanno sconsigliato di andare, ci hanno chiesto: senti, vi ridiamo i soldi dietro, ma non venite perché qui insomma ci abbiamo dei problemi, forse è caso che state a casa, che non andate in giro a porta sfiga, perché se Saturno s'oscilla un pochetto e allora dice che poi dopo gli aquilani insomma già ce la tirano, perché insomma bene come vedete la notizia dell'immondizia, quindi no. Che poi ho seminato immondizia un po' dappertutto. Cioè, noi seminiamo l'immondizia, ci stai dando dei immondizia. Italiani, no, sempre fare casino. Differenziata. No, di voi da mo' che è differenziata. Pure a Monterotondo è arrivata differenziata. Sì, ma a Coblenza no, è indifferenziata. Ah, la storia di Coblenza, sì, hai ragione. Noi veramente ci siamo un po' vergognati quella notte. Però considerando la monnezza che c'è sta adesso, insomma, va bene. Però, penso che. Insomma, tutto questo ha cancellato anche le nostre tracce, esatto. Questa è la cosa più importante. La natura cancella le nostre tracce, diciamo. Esatto. Questo è quello che succede. L'apocalisse mi insegue. L'apocalisse! No, che poi la cosa bellissima era che in effetti noi non sapevamo, cioè, c'era la raccontiamo così velocemente, giusto per quelli che non se lo ricordano, c'erano i secchioni normali, no? Quelli della plastica, quelli del differenziato, quello del vetro e quelli dell'umido, no? Però erano scritti in tedesco e nessuno ci aveva spiegato che Schinswagen, Tricken, Tunken voleva dire quello piuttosto che quell'altro. E quindi, nel dubbio di non sapere dove buttare le cose, abbiamo fatto dei sacconi giganteschi e abbiamo provato a buttare tutta questa roba in mezzo alla campagna incontaminata della Germania. Ci siamo ricordati del film Le ali della libertà, no? Che buttava i sacchetti di sabbia ogni giorno. Noi di fare la fine del protagonista. No, noi buttavamo la monnezza ogni giorno a piccole quantità, insomma, poco per volta. Non si accorgeva nessuno. Però ogni volta che noi stavamo lì per fare quest'atto infame, appariva dal nulla una macchina. E quindi niente, ci siamo sentiti in colpa. Fino a che polizei, no? No, non lo sappiamo perché. Che non significa è... pulizia in polizia. Siate state puliti. Era quelli di... datecelo a noi, se chi ci pensiamo noi piuttosto. Magari fosse stato così, invece cammina che te ricammina, siamo arrivati direttamente a Coblenza, dobbiamo prendere tutta questa monnezza, l'abbiamo suddivisa in tanti piccoli bustarelle, l'abbiamo inserita nei secchi quelli normali, quelli da passeggio praticamente, e io immagino tutti quelli che ci avranno visto, perché qualcuno ci avrà visto, insomma, non è inevitabilmente. Italiani sempre fare casino. Sì, esatto, insomma, mi sono veramente vergognato, da quella volta in poi... E non ci siamo più andati in Germania, sì, ci siamo tornati anche. No. Ah no, c'era andato io con Puccio, eravamo già andati. Sì, però l'anno prima siamo andati. Esatto, Puccio pure lì ha lasciato dei ricordi in Svizzera. Sì, dei ricordi biologici. Esatto. E sempre noi ci piace lasciare parti di noi in giro per il mondo. È stato divertente. Sì, esatto. Più entriamo in un ambiente teutonico e più siamo felici di questo. Va bene, ragazzi, iniziamo seriamente con la puntata, dove questa è una puntata che ha creato delle polemiche prima ancora di essere creata, perché Santa Costina tutto il pomeriggio mi sta a scrivere che noi non possiamo parlare di quello di cui vogliamo parlare, quindi io adesso lascio la parola a... tra l'altro molti di noi non sanno neanche di cosa devono parlare, tra l'altro questa è la cosa più importante, infatti la polemica, diciamo, noi abbiamo avuto delle tracce abbendonde, la polemica ne abbendonde. Io lascio la parola a Arturino, quindi come dire, vai Arturino, vai per la tosta, che è colui che ha proposto la puntata, quindi la colpa è la sua, non è giusto, no? Sono io che ho scatenato il putiferio. Esatto. Specialmente quel titolo molto sibillino che era Forza Puta contro un minimo comune multiplo denominatore, sì. Quindi iniziamo subito a sfatare il topic. Non stiamo parlando di chi ce l'ha più forte, chi è più grosso, chi è più potente, o chi ha venduto di più, o chi vince o chi perde. È solo una riflessione su i business model che hanno creato le varie società nel campo videoludico, e poi come è finita in realtà la storia, basata su come sono stati supportate le varie macchine, i vari giochi, eccetera eccetera. Quindi escludiamo subito dall'inizio Flame del genere Super Nintendo contro Mega Drive, lì sono delle macchine totalmente differenti. Vince il Super Nintendo. Tra, anche se la il Mega Drive in teoria era superiore, ma qui lì è, sono delle macchine talmente differenti che non ha vinto una o l'altra a causa della macchina in sé, ma da tutto ciò che era attorno. Vabbè, come spesso succede, vedi VHS con Betamax ad esempio, non tanto. Esatto. Quindi la mia idea era più discutere su forza bruta, in che senso una macchina con delle caratteristiche molto innovative che potevano dare un vantaggio economico o giocoso, e invece il risultato che è dovuto da il mercato che cerca le scappatoie per spendere di meno. Il primo esempio l'abbiamo avuto nel passato, quando i primi computer a 16 bit, avevamo l'Amiga che aveva i suoi chip custom, era una cosa, una novità immensa, e l'Atari ST. C'è chi dice che uno è meglio, uno è peggio. In realtà il mercato, quando dovevano programmare i giochi, creavano i giochi sull'Atari ST e poi li portavano su Amiga senza utilizzare appieno le potenzialità di questa macchina. Questo è un esempio tra due case che avevano due mercati leggermente differenti. Oppure lo stesso mercato, la stessa Commodore, quando lanciò l'Amiga 1200, aveva creato un'Amiga un pochino più potente del 500, però le varie case produttrici creavano giochi solo per la 500, non andavano a utilizzare il chip AGA perché non gli serviva, c'erano più macchine in commercio che erano Amiga 500, il 1200 era capace di far funzionare i giochi normalmente e nessuno sarebbe accorto, quindi era tutta una legge di mercato. Le cose sono cambiate fino ad oggi? No, vedremo velocemente che c'è stato l'effetto PS3, che è stato, come può essere definito, PlayStation, una super macchina che non ha avuto il successo che doveva avere per vari motivi, ma l'idea della puntata... Ma tu intendi all'interno di una generazione? All'interno tanto per creare ulteriori polemiche. Esatto, io voglio creare tutta questa confusione. Il motivo è semplice: abbiamo imparato qualcosa, o meglio, i produttori hanno imparato qualcosa dal passato, sì o no? E se mi permettete un salto indietro, un paio di generazioni prima della PlayStation 3 ci fu il Sega Saturn contro la PlayStation. All'uscita, al lancio delle due macchine, sembrava che il Saturn fosse qualcosa di potente, molto potente, migliore della PlayStation. Tutte le review gli davano, lo consideravano una macchina vincente. Il risultato era che era una macchina talmente complessa da programmare che era solo la Sega stessa, con il suo team di sviluppo, poteva creare dei bei giochi tipo Daytona USA o Virtua Fighter. All'epoca erano favolosi. Invece il sistema di sviluppo della PlayStation era molto più snello, più facile, e aveva un supporto dato ai produttori terze parti migliore. Anche il business model era molto diverso. In realtà la PlayStation ha vinto grazie a due cose: una era il business model e l'altra la pirateria, perché la PlayStation era facilmente chippabile, il Saturn l'hanno chippato l'anno scorso, quindi dopo 20 anni. Quindi cos'è questo effetto PS3? Cioè, avevi il Saturn con un doppio processore molto difficile da programmare, quindi nessuno ci perdeva tempo, o se c'era un porting di un gioco non andava a sfruttare tutte le potenzialità. Stesso problema che c'era con l'Amiga. Quindi all'epoca Sega non aveva imparato nulla dal passato. Quando ci siamo mossi alla PlayStation 2 con il Dreamcast, lì la Sega ha imparato gli errori, però il business model era ancora sbagliato, quindi dopo poco Sega lascia il mercato. Ignoriamo temporaneamente il GameCube e il Nintendo 64, che lì avevano altri problemi più che altro legati alla filosofia Nintendo. Nintendo 64 era rimasta legata alla cartuccia perché voleva il controllo totale, era il suo business model, e si è poi scoperto che il CD avrebbe preso tutto il mercato. E fino a qui sento che non ci sono domande o contraddizioni, quindi penso mi seguite. Io non sto capendo nulla, per cui non faccio domande. Non lo sapevo. No, no, dopo io aggiungo, cioè, nel senso introduco anche la discussione, no? Perché ora questa è un'introduzione, giusto? Questa era l'introduzione. Arriviamo alla parte clou, la PlayStation 3. Per molti è considerato un flop, per molti altri è la console più potente mai sviluppata sul mercato. Il concetto di quando è stata sviluppata all'interno della Sony, all'epoca ci lavoravo, quindi qualcosa mi ricordo, era di creare la macchina più potente che permettesse di fare tutto, e non solo nel campo videoludico, ma anche nel campo audiovisivo. Per esempio la PlayStation 3 ancora oggi è considerato il reference model per i Blu-ray player. Quindi se funziona sulla PlayStation 3 il Blu-ray è corretto, e questo era un qualcosa che veniva attestato anche dai vari studi di authoring qui in Europa o nel mondo. Oppure in alcuni stati, specialmente in Giappone ma anche in Europa, si poteva registrare anche la televisione sulla console, quindi c'era molta potenza, e questa era dovuta al cell con tutti i suoi processori che c'erano attorno. C'era la volontà di fare questo multimedia center che poi in seguito è stato criticato alla Microsoft quando hanno fatto la seguente Xbox. Esatto, se uno guarda come è stato fatto, c'era il Cross Media Bar, che era un progetto sviluppato in congiunzione con Bravia e con Vaio. Tutto il Sony aveva questo ecosistema che stava sviluppando, che poi è stato enfatizzato con la PlayStation 3, del Cross Media Bar, quindi tutti i device avevano lo stesso tipo UI e potevi passare da uno all'altro in maniera diretta, e in più c'era la potenza bruta che poi nei piani iniziali lo stesso processore Cell doveva essere utilizzato ovunque. Ma qui c'è una cosa importante che vedremo poi col cambio generazionale tra PlayStation 3 e PS4. La PlayStation 3, quando fu lanciata, era talmente potente è costosa che doveva essere venduta a perdere, quindi il concetto di business model, la 4 e la 5 la stiano vendendo in no, il concetto è molto diverso, perché se vedi la linea produttiva delle PlayStation 3 da quando è nata e quando è morta, ci sono state tre major release, in realtà 4, una molto in sordina, ed erano tutte dei cost reduction, quindi ci avevi la 3 FAT, la 3 che gli togli l'hardware della PlayStation 2, sempre una riduzione di costi, ma all'inizio si è partito da un hardware molto potente. Quando si è passati alla 4 si è capito che fare una macchina super potente subito era inutile, quindi si è scelto di fare una macchina media e dopo successivamente lanciare la Pro, che era più potente. Ma il grande cambio, salutiamo il motorino intanto che e ci si è accorto del cambiamento quando è uscita la Xbox, perché entrambe le macchine PlayStation e Xbox avevano come base più o meno lo stesso processore, quindi una base di PowerPC. Quindi i vari studi di produzione iniziano a programmare su Xbox e poi da lì convertivano per PlayStation 3, senza aspettare tutti gli add-on, la potenza aggiuntiva che dava questa PlayStation. Quindi è da lì che è lo stesso errore che aveva fatto la Sega anni prima, l'ha fatto adesso stavolta la Sony. Perché questo? Perché ognuno pensa al suo business model e non guarda tanto attorno. Beh, io su questo intanto aggiungerei una cosa molto semplice, così anche per coinvolgere un secondo anche gli altri, no? Che poi questa cosa, noi recentemente abbiamo fatto una puntata dove abbiamo detto una volta aveva un senso, no? Il fatto di acquisire una console piuttosto che un'altra, perché ogni console aveva magari la propria prerogativa hardware che la distingueva dal resto, no? Però poi ovviamente questo modello, che appartiene molto al passato come concezione, in un'epoca in cui tutto si sta standardizzando anche per necessità produttive, no? Dove voi immaginate la Rockstar che deve sviluppare un gioco colossal, magari dove un 35% che non è soltanto assets ma è anche codice, programmazione, ottimizzazione, lo deve andare a fare su due linee diverse per due hardware diversi, chiaramente oggettivamente comincia a diventare un po' un problema, no? Quindi alla fine è un po' una concezione antica sta cosa di cercare di fare un hardware, per quanto interessante e mal sfruttato fosse, perché noi ce lo ricordiamo con Marco, io giocavo a dei giochi su PlayStation 3 tipo Fallout 3 che era già graficamente vecchio e ci stavano delle volte che ci stavano dei cali di frame rate che erano imbarazzanti, no? A volte anche dei crash, vabbè, ma quello è un altro discorso, insomma. Ecco Arturino, tu che ne pensi di questa cosa? Poi sentiamo anche un po' gli altri. Lì c'è totalmente ragione. Quello è un esempio di un gioco che era stato sviluppato su una console meno potente e quindi di conseguenza portato direttamente su quella più potente, ma in questo tipo di macchine la potenza non è limitata al processore, quindi a un solo item, la potenza è una sinergia di tante parti. Non puoi paragonare un Fallout 3 con un Last of Us che era sviluppato internamente, che è uscito alla fine e dimostra la vera potenza della macchina. Però c'è ragione, lì si è capito che la macchina in sé non vale tutti i soldi di sviluppo. Infatti sono uscite la generazione successiva, quella della Xbox One e PS4, che sono né carne né pesce, sono un qualcosa che dobbiamo fare una nuova generazione, non sappiamo cosa fare, spendiamo il meno possibile, cerchiamo di accaparrarci il nostro mercato e rimandiamo la decisione a più in là. Infatti questo è più o meno quello che è successo, si è cercato di fare un PC economico, ritornare un po' alla semplificazione dello sviluppo e vedere dove andava il mercato. Questo è il principio. Adesso ci sono le novità con le nuove generazioni e lì si vede che ogni società ha scelto il suo business model. La PlayStation 5 ha detto: se io faccio una macchina, Sony, se io faccio una macchina super potente, serve a poco, ottengo lo stesso risultato da PlayStation 3. Allora ha sviluppato delle tecnologie per migliorare quello che funzionerebbe in una macchina mediocre, quindi il trasferimento dei dati dall'SSD alla CPU o tutte queste piccole ottimizzazioni che cambiano il risultato se la macchina concorrente è mediocre, più mediocre di quella della Sony. Microsoft invece ha usato un principio diverso: cerco di essere il più forte. E qual è che vincerà dei due? Probabilmente nessuno, dipende sempre come il mercato, il business model. Beh, diciamo che in un periodo in cui le console continuano a perdere significato da un certo punto di vista e diventano degli oggetti tramite i quali si usufruiscono determinati servizi, quindi vedi il videogioco, secondo me oggi sono le esclusive forse che fanno la differenza, un po' come abbiamo detto già altre volte, no? Nel senso che comunque ci sono alcuni titoli che hanno spostato il mercato a volte nel passato e probabilmente è una cosa che può succedere ancora oggi, no? Io faccio sempre l'esempio del fatto di aver comprato console o macchine. Io per esempio, se vedo la mia storia, penso al passato, io giocavo solo su PC, per me la PlayStation 1 era feccia, per me, cioè non c'avevo nessun interesse in generale per le console e figuriamoci per la PlayStation 1. Poi la comprai la PlayStation 1 proprio per giocare a due titoli, poi fondamentalmente uno era PES, anzi no, ISS allora era, e l'altro era Silent Hill, che non c'erano equivalenti su PC. Sì, all'epoca si era una discreta differenza, direi, da quel che ricordo, tra giochi PC e giochi console, via. Sì. Era anche palesemente inferiore, insomma, proprio da tutti i punti di vista, anche una PlayStation, per quanto abbia avuto il suo successo, no? Se non ricordo male. Io sì, vedevo i giochi della PlayStation come dei giochini, insomma, a parte quei due o tre, ecco. Beh, diciamo che dal punto di vista hardware sicuramente col passare del tempo, in particolare il gap col PC era grosso, cioè nel senso Però, come ho detto, alla fine la differenza la facevano i titoli, cioè nel senso quei giochi che altrimenti non avresti potuto giocare e che ti attiravano l'attenzione, no? Io per esempio Silent Hill è stato un motivo per comprare la PlayStation, poi, poi vuoi che io quando l'ho comprata oramai la PlayStation stava nel mercato già da tanto tempo, me l'hanno già venduta tutta modificata, tutta già criccata, e giochi giapponesi, giochi americani, giochi francesi, tedeschi, italiani, però voglio dire comunque alla fine il motivo per cui l'ho comprata è stato quello. Poi dopo magari sono anche un po' innamorato del concept, no? del marchio per certi versi, però ecco, pure quello là è una cosa che secondo me appartiene al passato, no? Quei grandi dualismi dove tu eri quello, tu eri quell'altro, cioè nel senso quasi come se avere un certo tipo di prodotto ti identificava come lista di quella cosa lì, cioè il commodorista o lo spectrumista o l'amighista o l'atarista o via dicendo, cioè nel senso comunque c'era questa impronta una volta che forse in qualche maniera è sopravvissuta anche nell'epoca fino alla PlayStation 3 / PlayStation 4. Oggi in questa generazione in particolare, con tutte le difficoltà legate al Covid, alla produzione, alla distribuzione, roba del genere, boh, io sento un mio naturale distacco, vabbè, io poi ho 50 anni, quindi già il discorso è diverso, sento proprio un mio naturale distacco da cose che poi in realtà poi alla fine, alle quali ero affezionato, no? Cioè, quindi alla fine, se vai a vedere, no? Tutto il discorso che ha fatto Arturino è giusto, io tecnicamente tutte queste cose non le sapevo, non me ne fregava niente, però sceglievo un certo tipo di modello perché comunque lo ritenevo, che ne so, più affine a me, più simpatico, perché Microsoft mi stava sui coglioni, non lo so, cioè nel senso alla fine non so dare una ragione, insomma. Però ecco, comprendo il fatto che oggi secondo me uno sviluppatore, un produttore vede tutte queste differenze oggi come un ostacolo, e il consumatore a sua volta anche, perché alla fine il consumatore che vuole fa? Vuole giocare. Puccio. Sì, ma infatti alla fine io stavo facendo una riflessione mentre parlavi tu sul fatto che io in effetti il Super Nintendo, Super Famicom per esattezza, l'ho comprato perché volevo giocare a Street Fighter 2, cioè è il problema delle killer application. Sì. Spesso e volentieri la fortuna di un sistema è venuta dalla killer app più che dalle caratteristiche in termini di potenza di calcolo, grafiche, eccetera eccetera, visto che siamo in tema Super Nintendo. Alla fine il Super Nintendo non era una macchina realmente a 16 bit, no? No, era un 8 bit. Era un 8 bit con un coprocessore grafico che stava nella cartuccia, quindi esatto. In più ti dava la possibilità con le cartucce che noi all'epoca chiamavamo chippate di portare le prestazioni a livelli diversi, tipo quella con Star Fox, eccetera, eccetera. Poi diciamo nel mercato chiamiamolo attuale, ma in realtà questa cosa credo che ce la stiamo trascinando grosso modo dagli anni 90 con qualche intermezzo. Ci abbiamo due player che giocano di forza bruta, che sono Sony e Microsoft, quindi come posso dire, l'esibizione dei teraflops, no? I poligoni al secondo, queste robe fantastiche, e un'altra che è Nintendo, che semplicemente non è che gioca su un terreno diverso, gioca proprio un altro sport, cioè dice io vendo giocattoli, no? L'atteggiamento di Nintendo tendenzialmente è quello, quindi non vado a giocare sulla forza bruta, manco mi interessa, propongo una console che ha il sensore di movimento, che ha Joy-Con, che è l'ibrido portatile fisso. Vabbè, ci hanno fatto la prova a giocare di forza bruta con Nintendo 64, è andata malissimo, un po' per la scelta del fun factor delle cartucce, un po' perché titoli di terze parti generalmente molto scarsi e molto pochi, e quella l'hanno persa. Però quello che hanno fatto dopo con la grande parentesi del Nintendo 64, forse del GameCube, è stato andare a giocare su un altro terreno di gioco, a un altro sport. Quindi diciamo viviamo un po' questa roba. Beh, chiaramente quello di Nintendo è un modello totalmente diverso, basato su una sua filosofia. Visto che ne stavamo parlando, no? Abbiamo visto l'altro giorno che hanno annunciato non la Switch Pro, la Switch OLED, che, oddio, questa è un'altra di quelle cose come la PlayStation Pro e la spesso sono scelte che le aziende fanno perché magari una linea, che una linea di produzione che fa un determinato componente della tua console smette di produrlo perché semplicemente sta facendo altro, quindi pur di non andare corta con le forniture ai negozi sviluppi un modello che utilizza un componente diverso e te lo rivendi in un'altra maniera. Probabilmente la causa della Switch OLED pare possa essere stata questa. Però mentre che ne so, noi sappiamo che Sony e Microsoft ora stanno vendendo le console in perdita, Nintendo ci ha ricaricato $30 di più, cioè in pratica la Switch OLED, se fate la differenza tra i componenti della Switch normale e la componente e i componenti della Switch OLED, la Switch OLED a produrla costa $15 di più, però ce ne hanno ricaricati 30, quindi 15 più 15. Cioè hanno proprio un altro modo di affrontare il problema, giusto o sbagliato che sia. Cioè hanno anche una penetrazione sul mercato. Non si tratta del giusto, non ci interessa il giusto. Che poi a proposito di Nintendo, Marco, ci avevi Fantastico Nintendo 64. Fantastico Nintendo 64, di cui io ci sono ancora delle cose che non ho capito se erano vere o no, però. Puoi dirmene, tanto io lo so, conosco. No, perché c'era poi, insieme al Virtual Boy è l'unica console Nintendo che non ho avuto, giù. Il Virtual Boy ho sentito gente che è morta di ictus, ovviamente. Sono sopravvissuto. Ah, tu ce l'avevi? Tutto in Nintendo, dal Super Nintendo in poi ce l'ho tutto. Cos'è che volevi sapere del Nintendo? No, del fatto che c'era sto famoso chip grafico da Silicon Graphic. Sì, è vero. È basato su un progetto Silicon Graphics, però era prodotto dalla NEC. Da Nicky, anzi, vabbè, è come quando ti dicono la macchinetta fotografica e ti dicono che c'è la lente Zeiss, no? Cioè non è veramente una super lente Zeiss, è un marchettone, ma fondamentalmente basato su magari un prototipo ovviamente fatto apposta per quel tipo di macchinetta. Però insomma, alla fine sta cosa del, cioè io l'ho visto Nintendo 64 e sinceramente non gli faceva una bella pubblicità Silicon Graphic, che allora insomma era la, ma lì era anche molto la Lamborghini della computer grafica, era epoca PS1. Ah, tenete presente che anche adesso i chip grafici che ci sono su PS4/5 e le varie Xbox non sono esattamente uguali a quelli che potreste trovare sulle schede grafiche dei PC, ma sono custom, cioè sono modelli che hanno, vabbè, diciamo così, configurazioni un po' diverse rispetto agli equivalenti che potresti trovare su PC, fatti per andare magari un po' più agli spalli. Diciamo che oggi questa cosa io un po' me l'aspetto, se devo aspettare, cioè devo pensare che Microsoft e Sony abbiano preso un PC, l'abbiano assemblato, l'abbiano miniaturizzato. Tutto sommato sì. Sì, però voglio dire, comunque un lavoro ingegneristico dietro ci sta, se no me lo faccio da solo, cioè nel senso. Ma avete ricordato una roba parlando di forza bruta e di esibizioni? Ma visto che abbiamo tirato fuori il Nintendo 64, vi ricordate quando fecero vedere quello che molte riviste italiane riportarono come trailer, ma che in realtà era una tech demo fatta dalla Square su Nintendo 64, e tutti pensarono che era il nuovo Final Fantasy? Vi ricordate sta scena? Io sì, no, perché all'epoca me lo vado a cercare. Io collaboravo con PSM, venni a Roma in redazione e il mio capo di allora mi disse: sono andato a vedere a Londra la presentazione del Nintendo 64. Square ha fatto vedere sta roba, poi avevano avuto le immagini per la stampa, che era evidentemente erano i personaggi di Final Fantasy 6. Final Fantasy 7 era ancora da venire, però fatti per bene in 3D con rendering, le luci, eccetera eccetera. E lui mi ha detto: guarda che un sacco di colleghi italiani hanno capito che questo è il trailer del prossimo Final Fantasy su Nintendo 64, ma guarda che il giapponese con cui abbiamo parlato noi ha detto chiaramente che è una tech demo, non vorrei che abbiano preso una cosa per un'altra. L'avevano fatto, quindi tutti pensavano che stesse arrivando questo nuovo fantastico Final Fantasy per Nintendo 64, in realtà Square stava facendo Final Fantasy 7. Allora, su YouTube c'è Nintendo 64 Final Fantasy 6 The Interactive CZ Game. Esatto. CZ. No, quello è il gioco di carte Game. Però dovrebbe essere un gioco. Poi di c'è carte, SGI Demo VS. Insomma. Sì, è quella là, deve essere. Vabbè, è tutto insieme. Vabbè, a parte io non capivo sta cosa del Nintendo 64, che alla fine andava a 15 frame al secondo. Però devo dire che, insomma, a parte il meraviglioso Superman, ho visto anche cose pregevoli, insomma, questo indubbiamente. Diciamo che Cioè, beh, io personalmente sono convinto che il Nintendo 64 sia non esista, sia un complotto di voi nerd da farti credere che sia esistita questa console con quel buffo controller. Che è stato prodotto a San Marino, poi ricordiamo. Esatto, probabilmente. Boh, scherzi a parte, io non ho mai visto gli amici sono venuti a comprarsi la PlayStation. Era la Nintendo, Nintendo San Marino. 64 a San Marino. La Nintendo di San Marino. Sì, all'epoca sì, all'epoca sì. No, io l'ho vista lì Nintendo 64. Devo dire, c'era anche. Vuoi faccio vedere la mia? No, no, ma c'era anche un cabinato, mi ricordo. Cabinato? Sì, sì, un cabinato basato su quel gioco di macchine del Nintendo 64 che. Adesso Mario Kart, dici? No, no, era un gioco di macchine fighissimo. C'era sto cabinato praticamente con sto gioco di macchine, che adesso io non mi ricordo. Sì, che era gioco di macchine. Che però, tra quando non, quando non giocavi, prima di mettere, girava sempre sta cosa Nintendo, Silicon Graphic, e c'era sto gioco. Oh, io mi ricordo sta cosa qua, può essere pure che me la sono sognata, però. No, no, c'è ragione, è 0X, è 0X. Oh, vedi, e dai, che cazzo, io poi, cioè, c'ho l'ictus, però qualcosa me la ricordo, insomma. E qual era sto gioco? È un gioco di corso, basta cerchi F-Zero, e c'è una versione che era per Ultra 64, quindi la versione arcade, perché dal Nintendo 64 è uscita anche una versione arcade, che in pratica era un Nintendo 64 adattato per i cabinati. Stessa cosa che si è fatto con il Neo Geo, con il Dreamcast del Saturn, all'epoca si faceva molto spesso. Bene, e quindi questo era, me lo ricordavo questa cosa. Ah, ma scusate, parlando di forza bruta, Neo Geo? Neo Geo era tutta forza bruta all'epoca. Il Max 330. Sì, no, tanto invidiato. Una porta aperta con me. Sì. Beh, purtroppo Neo Geo però fa parte di un altro tipo di discorso, insomma, che magari poi noi veramente non abbiamo quasi mai trattato nei nostri podcast, e non capisco neanche il perché, ma in realtà è vero pure che non siamo, ecco, forse noi manca l'arcade maniaco all'interno del nostro team in generale. Ma manca lo specialista di picchiaduri uno contro uno. Io sono un mestierante, non uno specialista. Tu sei un po' un pippone che però ci gioca tantissimo. No, io ci gioco, mi disto. Pippone no, ho fatto. Vabbè, ma so, c'ho un'età, lasciamo sta. Però diciamo, fino ai 22 anni ho fatto un po' di tornei in giro, anche a Parigi. Sì, sì. Street Fighter 2 Hyper Fighting. E quando hai perso hai detto non avete neanche il bidet, maledetti. No, no, ho perso contro un asiatico, però francese, cioè, è uguale, pure l'asiatici, pure l'asiatici non c'hanno il bidet, quindi va bene, fanno il culo. Sono la fontanella nel batter. A Parigi ho vinto il primo incontro, ho perso proprio malissimo il secondo con l'asiatico, ma proprio male. Ma con l'asiatici non c'è storia. Vabbè, comunque, perché prima di cominciare il gioco è andato a picchiare Puccio, quindi esatto. Gli ha spezzato le dita e poi si è messo a giocare bullandolo, quindi. Comunque, tornando un attimo un po' anche al presente, no? Partendo insomma da quello che è il presupposto che ci ha raccontato Arturino, cercando pure di capire, ecco, facciamo questo tipo di gioco qui, poi dopo magari cerchiamo anche di capire se per oggi per noi le console così come sono, come sono state concepite, forza bruta o meno, abbiano ancora un senso, e se secondo voi si andrà verso un'universalizzazione ancora maggiore rispetto a quella che c'è attualmente. Però prima di questo io faccio questo gioco qui. A un certo punto, Marco, parto da te, poi sento Diego e poi ovviamente Puccio e Arturino. Arriva uno che ti dà un assegno dei 600 euro. Così che cazzo ci faccio questo? Aspetta, per tenesse largo, perché non è pure largo. E ti dice, tu ti devi comprare una qualsiasi cosa, cioè una qualsiasi console che hai a disposizione. Cioè io ti do 600 euro, ma tu ne devi comprare una. Cioè non ci so cazzi. Console, di qualsiasi epoca storica. No, no, no, sempre adesso, sempre relativa adesso, insomma. Console, eh? Eh sì. Quindi ti avanzano pure 200 euro per il gioco, volendo. Ma invece comprare una scheda grafica a trovarle. No, però, sto di. No, con 600 euro no, Marco. La 3060 forse te porti a casa. Che comunque mi basterebbe. Comunque. Sì, sì, a voi. Considerando che ho la 760, esatto, io sotto il culo. Infatti, sì. Allora compratela. Sì, sì. Io secondo me anche a 300 euro la trovo una scheda meglio da mia. Non è che c'è. C'ho la 1050 io. Se fossi costretto, che sarebbe sempre meglio di me, se fossi costretto a prendere solo una console, prenderei assolutamente. Perché? perché bella, è bianca, sta benissimo sul mio soggiorno. Bianco. Bianco. No, cioè il divano bianco, sta bene, oh, è nero. La metti sul divano. Però la Xbox è bianca volendo. Però fa cagare. La Series X, sì, quella sì. Però fa un po' cagare, insomma, come. In realtà non lo so, perché su. Vabbè, tu di impatto hai risposto PlayStation 5, giusto? Così. Esatto. Dai, però devo dire che. Però non sai perché. No, perché per afficionare, perché sono un afficionato. Però se dovessi, diciamo, rifletterci, dico, va, sai che aspetta, adesso non è uscito un cazzo di quello che mi possa interessare, cioè fondamentalmente. Però sai, beh, a parte tutta roba, ancora, ancora non è che c'è tutta la senso. Roba Bethesda che uscirà da qui a 6-7 anni. È tutta, mia, tutta Xbox, quella, tutta Microsoft. Infatti, è quella o PC. O quella PC. Secondo me è stata una grande zozzata. Tra l'altro hanno anche, hanno anche fatto un comunicato dicendo che non si scusano. Perché dovrebbero? Gli hanno dei figli fantastici. Devo scusare a fare, giustamente. Alla fine. Cioè, oh, scusatemi che mi hanno reso ricco. Infatti, non avresti fatto la scelta. Vabbè, ma Max Zenimax là, no. Cioè, hanno bisogno di diventare ricchi. Cioè. Probabilmente sì. Ma dai, su, ragazzi. Per me, una software house di quel livello, una scelta del genere è controproducente. Cioè, sei un coglione. Per me, però. Perché sei un coglione? Evidentemente, hanno fatto i loro conti. Vabbè, comunque poi è esclusiva. Vabbè, comunque. Poi è esclusiva per adesso. Cioè, in realtà poi nessuno vede che dopo Pops. Ah, sicuramente quello va bene. Però porca puttana, cioè. Te levi metà del pubblico. Cioè, alla fine. Se te avete veramente dato i soldi che te fanno ridere. Comunque, non è questo il tema. Diego. C'hai sti 600 euro. Ma io. Oddio, in realtà la scelta l'ho già fatta perché la PlayStation se lo sa. Quindi. Sono. Di dubbi ne avevo pochi, francamente, non per sapere ragioni, ma ti ricordi, insomma, ti imbladi i soldi, ballatissimo, mi hanno mostrato un regalo, un fortunato regalo. Addirittura sei riuscita pure a riceverla, c'è gente che ancora piagna. Non sai quanto è stato rocambolesco trovarlo, quello è vero. Un supermercato di una frazione di... No, mai. Con gli schizzi di sangue, con gli schizzi di sangue. Cioè poi correre dietro a quello che c'aveva il pacco è stato difficile. Hai la libreria, sei affezionato, per carità, io il fascino dell'Xbox francamente non t'ha mai preso. Sì, i giochi comunque, le esclusive della PlayStation secondo me sono sempre state godibilissime. Sì, si comprasse due. Certo, fino adesso, adesso vediamo come va ovviamente. Potrebbe arrivare la tramvata, però mi ha sempre dato l'impressione la Sony che volesse già dalla PlayStation 1, che sembrava puntare un po' per il pubblico che era già cresciuto dagli 8 anni in su con i videogiochi, quindi ormai era arrivato ai 18-20 anni, un pochino di più. Mi dà l'idea che gli anzianotti se li coccolano, ma che ci pensano. Okay. Questa è una mia impressione che ho sempre avuto, non lo so se è vero o meno, ma forse solo perché è più vecchia la PlayStation, come siamo noi, ecco. Vecchio maledetto, Puccio. siccome c'ho il PC che ancora me regge, nonostante non ci abbia la serie 30, non mi interessa. La domanda è, arriva il tizio. Ah, se in questo momento ti dà 600 euro e devi comprare una console, se no ti sgozza, va bene così, cioè, che cos'è che Xbox ti manca? Xbox con Game Pass, Xbox con Game Pass, perché? Che gli manca? Perché di cosa che non francamente c'è. Perché no, ma cioè, per due motivi abbastanza scemi. Perché in questo momento, per come sto giocando e per i titoli che sto giocando io, il Game Pass mi permette di spendere relativamente poco e avere una libreria sempre con roba che probabilmente mi sarei giocato anche senza Game Pass, ma che avrei pagato molto di più. E perché francamente, tra le esclusive che ha annunciato la PlayStation adesso, cioè Sony adesso, e la prospettiva temporale da qui a quando dovrebbero uscire, io l'utilità di pigliarmi la PS5 mo non ce la vedo. Fuori di metafora, io non mi sto prendendo l'Xbox perché c'ho un PC che mi regge, e quindi se prenderò un'altra roba sarà la PlayStation 5. Ma in questo conta il fatto che Microsoft anni fa ha detto quello che esce su Xbox esce su PC, quindi francamente per me, per chi è PC decente, avere l'Xbox fai scopa, un doppione, quello che esce da uno esce dall'altro, quindi attenzione, se quando ti si compri una console ti compri quello che non c'hai. Attenzione quando diciamo queste cose, esce uno entra l'altro, sempre un po' così. Ma sta cosa del Game Pass, penso che se Microsoft, se Sony non pone un rimedio, no. Più delle esclusive, più di accaparrà studi e via dicendo, secondo me. Anche no, sì, lì devono assolutamente fare qualcosa. Anche perché, devo dire, con l'abbonamento con la 11 euro, alla fine c'hai il pass sia per Xbox che per PC. Cioè, è tanta roba, raga. Cioè, insomma, devo dire che... C'è anche il cross-saving, Puccio? Che tu sappia. Sì. Se prendi i giochi da... Cioè, se tu compri un gioco per PC dall'applicazione Xbox su PC, te lo puoi giocare serenamente anche su Xbox, e se sei salvato ti ritrovi lo stesso salvataggio in cloud col Game Pass. Ci ho provato, quando è stato? Un paio di settimane fa. Quindi. Se invece compri un gioco su Store, qualsiasi altro, chiave, quello che è? No. Se ti compri un gioco da Steam, da Epic Game Store, devi male. GOG, no, t'attacchi, però tenete presente un'altra roba. Microsoft ha l'idea di aprire la console a Steam, non ha detto no. Ah, però è una roba che è rimasta. Vabbè, hanno fatto delle domande in conferenza stampa, sono rimasti sul vago. Sì, vabbè, tipo, queste comunque sono tutte cose che vedremo poi nel futuro. Adesso no, perché tipo Sony ha risposto vabbè, in giapponese. Ma Sony, sai com'è, Sony. Sono un po' chiusini, come tutti, ragazzi. I giapponesi in realtà rimangono molto più sulla loro posizione, poi vediamo se in questa generazione. Comunque, tanto salutiamo Umberto che ci ha raggiunto. Buonasera a tutti, ragazzi. Ciao Umberto, grande Umberto. E poi a questo punto la faccio pure a Umberto la domanda, però prima c'era Arturino, 600 euro, se no ti sgozzo. Domanda molto difficile. Vabbè, tu in realtà... Tu. Io ce l'ho già tutte, quindi... Ma che schifo! A parte l'Xbox che non piace. No, probabilmente sceglierei un possibile futuro Vita 2 o una Steam Box portatile. Ecco, poi ci arriviamo. Però, ecco. Cioè, prodotti che attualmente non esistono, quindi... Beh, no, però li faccio pagare. Però sì, esatto. Però in generale, comunque, vabbè, dici comunque alla fine, se devo andare a scegliere, scelgo una cosa. Però poi dopo ne parliamo un attimo di questa cosa, perché in realtà potrebbe essere una potenziale scelta. Però ci sono delle grosse perplessità. Umberto, la domanda è: ovviamente tu ti sei perso un po' tutta la premessa, tutto il preambolo, ma anche chi se ne frega, perché alla fine il quid è: se arriva un tizio e ti dà un assegno di 600 euro, però dice devi comprare assolutamente una console di questa generazione, se no ti sgozzo. Cioè, lui, di 600 euro tu non te li puoi mettere in tasca, devi assolutamente comprare una console. Sono morto, sai. Io non credo, sai, tra il morire e comprarmi una console. L'assegno è coperto. Fai uno sforzo. Fai uno sforzo, esatto. No, prenderei la PlayStation 5 probabilmente, dovendo scegliere. Ma così. Perché? Perché mi ha dato più fiducia nella scorsa generazione, quindi sono più proiettato verso la PlayStation 5, okay, che l'Xbox. Ho capito che in pass quello che volete, ma io tempo ne dedico molto molto poco, quindi non è un problema avere 1000 giochi o comprarne uno, per quel che mi riguarda. Sì, su questo sono d'accordo, sì. Beh, sì, allora, se queste sono, diciamo, le condizioni, è vero pure che tante volte il Game Pass, diciamo, che ti porta a fare quello che era l'effetto dei Games Machine una volta, no? Quando tu andavi in edicola a comprare dei Games Machine, sì, per gli articoli, sì, quello che ti pare, però perché ci stava il CD con le demo, no? E quindi alla fine tu provavi tutto, fondamentalmente tu li provavi tutti i giochi. Ma l'effetto Amiga con i giochi copiati. No, ma sì, no, no, no. 150 dischetti, esatto. No, quell'entità no. Effetto Twilight per PC. No, quell'entità lì no, chiaramente. Cioè, nel senso, stava parlando sempre di cose sempre ridimensionate, no? Gli Amiga, io penso ci avrò avuto giochi che non avrò neanche mai. Avrò visto un fotogramma, ci ho giocato 2 secondi e l'ho levato, perché c'era talmente tanta roba. Che poi inutilmente, cioè, era proprio questa cosa dell'accumulo inutile. Invece, per quanto riguarda me, io devo dire che dopo 4 generazioni consecutive di PlayStation, e come ho spiegato prima, quando io comprai la PlayStation 1, a me delle console in generale, quindi che siano Sony, Nintendo, Sega, ora, non me ne fregava un cazzo di niente proprio. A me si sta, per giocare si sta solo il PC e anche solo determinati tipi di giochi, perché poi io comunque alla fine sì, giocavo a qualche action, sì, giocavo a FIFA, sì, giocavo, però poi io fondamentalmente giocavo i giochi di ruolo e le avventure grafiche, quindi non è che c'avevo tutto sto, anche se poi dopo alla fine smachinavo un po' con tutto. Quindi alla fine, dal mio punto di vista, insomma, è entrato nel mondo delle console, mi ha portato poi a fare tutto un certo tipo di cammino e ci sono entrato ovviamente per quello che vi ho detto, cioè io ho comprato la PlayStation 1 solo per Silent Hill, quindi da lì in poi è nato un po' tutto un altro tipo di discorso, che comunque è anche correlato, perché alla fine Silent Hill è una mezza adventure con gli elementi action, però c'erano comunque gli enigmi ambientali, c'erano tutta una serie di situazioni particolari, poi l'horror, insomma, è stato un gioco meraviglioso. E l'aritmia cardiaca. Sì, no. Però scusa Simone, prego. Allora, anche all'epoca, voglio dire, vabbè che con la PlayStation 1 pensavamo che era facile trovare il cippettino, il dischetto dall'amico nel parcheggio, però sì, dal bangla. Fanno fare la scelta, il bel gioco a fronte di una, sì, sì. Di tanti giochi per il PC che potevi trovare con ancora più facilità. Sì, ma chi è che sta scavando? Scusate. No, non sono io, sono fermo come un colpo. Che scava nel pacchetto dei patatini. Se qualcuno sta ora scavando. Il Game Pass è sicuramente una cosa eccezionale e tra l'altro in epoca di Netflix e di un mercato che comunque da Spotify a tutto il resto la gente si sta abituando a queste formule all you can eat, diciamo. Però è anche vero che io personalmente, da un punto di vista dei videogiochi, se devo avere 300 giochi, quali poi tra l'altro ho anche adesso librerie di Steam piene, anche nella PlayStation ho un sacco di giochi che non ho neanche mai avviato, cioè non, quindi preferisco avere il gioco bello che sono sicuro che mi piace piuttosto che 350 giochi di cui non no ma infatti questo è ragionevole come tipo di atteggiamento, cioè non è che io lo contesto, però devo dire ma io anche acquistando diversi giochi anche a basso costo con le super promozioni, alla fine se io compro 3 o 4 giochi al mese e tu dici vabbè ma io non li compro 3 o 4 giochi al mese, ok, però poi alla fine vado a spendere di più di quello che è il costo d'abbonamento anche solo per PC del Game Pass, e quindi alla fine io per esempio ho giocato a Wasteland 3 perché l'ho giocato col Game Pass, altrimenti non l'avrei mai giocato, perché io comunque sì, 59,99 per Wasteland 3 non ce le spendo e alla fine ho speso 10 euro e ci ho giocato, cioè dimmi quello che ti pare, la potenza più che il numero probabilmente, infatti ecco che ci sono, che ne so, giochi nuovi, forse le esclusive le faranno direttamente uscire lì, non lo so adesso, ma è quello che fa ma il Game Pass, infatti il Game Pass ragazzi hanno fatto annunci tra agosto e settembre tutte esclusive già al day one, già col Game Pass, cioè, ragazzi, sì. Quello è una bella bomba, che, ecco. Scusa, che dicevi un No, non l'hanno già fatto il fatto di mettere al day one le esclusive. Sì, però vabbè, per esempio. Ma non solo, cioè per dire una cosa che vabbè tecnicamente è un indome. Che ha detto? Non ho mica capito, che ha detto? Lo voglio fisico. Che lo vuole fisico. lo so, questo poi è per esempio discorso. C'è The Ascent che è un RPG cyberpunk che esce normalmente tra 10 giorni e costa una 30 euro, sta serenamente annunciato nel Game Pass in uscita insieme agli altri. C'è tanta roba, posso raga, permettere cioè. Hades che è ancora Game of the Year praticamente in tutte le competizioni, lo stanno per ficcare nel Game Pass quando ancora vende come le ti prego Puccio, ridi Game of the Year, ti prego, ridillo, ti prego Game of the Year. Bello proprio la pronance di quelle, no, insomma. Vabbè, io a me è stato inculcato il francese a calci, quindi c'ho proprio difficoltà, perché ricordiamo che tu c'hai la mamma francese. No, non francese, insegnante di francese, poi parenti in Francia anche troppi, lo so, gli hai fatto anche in Canada lo scorso. Stato nel Canada francese, in Quebec sta in questo momento mio cugino, quindi un po' ovunque dove si parla francese c'è uno della famiglia. Vabbè, ok, comunque Farming Simulator 19 per Windows 10? Vi interessa? Sì, sì, sì, sì, sì. Tropico 6 vi interessa? Immortal Realms vi interessa? Queste sono le aggiunte, beh, però c'è Limbo. Vabbè, Limbo, cioè, no, dire, ancora Limbo, basta. Basta, cioè, Limbo c'è rotto il cazzo. No, c'è Genesis Noir, che bellissimo. Bello, bello, quello è bello, quello è veramente c'è bello. The Outer Worlds, che ci abbiamo fatto una puntata. Sì, vabbè, io Carrion, che insomma, vabbè. Provatelo, che bello. Poi c'è tutto il catalogo di EA Play. Sì, esatto. Jedi Fallen Order, Squadrons di Star Wars, che bellissimo. Vabbè, comunque ragazzi, cioè, il problema è questo, che io oggi, se arriva quello con 600 euro, devo dire la verità, sì, penso che farei per la prima... Mi fa strano dirlo, veramente mi fa strano dirlo, ma poi dopo, la domanda che faccio dopo, secondo me va un po' oltre. Fa strano dirlo, ma penso di scegliere Xbox, veramente dopo tanto tempo, pur avendocela avuta comunque l'Xbox, perché appunto, come ho sempre detto... Squagliate due, esatto, per giocare a Mass Effect e Immortal Cazzo Imperio. No, era... come si chiama? Cazzo Imperio, che era. No, era un gioco, un JRPG di uno degli autori di Final Fantasy, però esclusiva Xbox. L'altro. No, ce l'ho pure io, l'ho giocato. The Other. Con l'immortale. Che tra l'altro, esatto, lui era immortale. Tra l'altro, doppiato in italiano, cioè, regà, un lavoro mostruoso. Non spreco dei soldi, però io, cioè, mi ero innamorato di quel gioco. Però alla seconda volta mi si è squagliato l'Xbox, ho preso, buttato al cesso. Proprio. Mi pare che quello poi lo hanno tirato via per PC, poi una conversione da qualche parte. Mi sarebbe piaciuto, perché in realtà poi non l'ho mai finito. È andato un sacco avanti, ma poi dopo, alla fine, la seconda Xbox, l'ho presa e l'ho messa nel secchio. Mi ricordo, c'era questi mesi che feci pure una fotografia, il secchio della monnezza con l'Xbox dentro. Una cosa che è assolutamente insopportabile, ragazzi. Comunque, che cazzo, che non ci sta venendo il nome di quel gioco, che poi è dello studio Last di Odyssey. Last Odyssey, grande Marco. Bravi, bravi. Tra l'altro, c'aveva una lore interna mostruosa, cioè trovavi libri e libri di pagine e pagine e pagine. Sì, diciamo che l'unica cosa un po' che sminchiava era tutta la parte testuale, che era veramente, cioè, a me piaceva, cioè, però effettivamente a volte volevi vedere come andava avanti la storia, questo, con tutte ste insomma, la nostra parte, insomma, che era tosta, insomma, diciamo che, ecco, alla fine comunque oggi sceglierei Xbox. Però a questo punto la domanda vera, che secondo me poi ci dobbiamo porre, insomma, poi dopo vediamo un attimo anche quest'ultimo prodotto lanciato da Steam, quanto possa aver senso, quanto possa non aver senso, e soprattutto, insomma, visto anche il costo, che non è proprio comparabile. Là, secondo me, come sono andate le cose, è abbastanza chiaro. Vabbè, poi ce lo spieghi. Però dice, la domanda è: ma oggi veramente, raga, ma al di là degli interessi e della quantità in cui, cioè, con la quale giochiamo, no? Ma oggi c'ha veramente senso ancora questa diversificazione? Cioè, non ritornare all'epoca del PC compatibile, tra virgolette, proprio universalizzare proprio il gioco, che poi possa arrivare Sony che mi faccia comunque le sue produzioni, Microsoft faccia le sue produzioni, Sega faccia le sue produzioni, ma svincolati da un discorso hardware, al di là del clouding game, che poi ovviamente anche quello è una cosa di cui abbiamo sempre parlato, e ancora stavo un po', tra virgolette, al palo, perché, cioè, visto Stadia, grosse critiche, insomma, mo arriverà Netflix, vediamo se faremo un po' di risate su questa cosa qui. Ecco, c'ha veramente senso, Arturino, mo al di là dell'affezione proprio, no? Cioè, nel senso, per uno che vuole avere e usufruire di intrattenimento digitale, interattivo, anche avanzato, cioè, sto legame a una singola macchina, cioè, c'ha senso oggi? Allora, dipende dal punto di vista. Dobbiamo pensare a due punti di vista diversi. Uno è quello dell'utilizzatore. Per l'utilizzatore oramai non ha senso più, oramai si punta a un pay per monthly fee, quindi un paghi un qualcosa tutti i mesi e consumi quanto vuoi, da Apple Arcade a l'Xbox Pass, eccetera eccetera. Poi c'è invece il business model dei vari distributori o venditori, e a quello che hai ipotizzato c'è un grande problema. i veri soldi si fanno con gli store, non con la produzione dei giochi, quindi tutti quanti vogliono avere la loro piccola fetta della torta, ognuno punta a un mercato diverso, quindi ti devi immaginare come una grande scacchiera, ognuno ambisce un pezzo di questa scacchiera e a volte ci sta l'overlapping, è lì dove ci sono le piccole battaglie, ma altrimenti ognuno è indipendente. Steam per esempio adesso perché lancia questa famosa console? Perché sente la questione di Epic, non Epic in se stessa, ma chi c'è dietro, il colosso che c'è dietro, che sta pompando tanti di quei soldi. Beh, sta regalando giochi a rotta de collo, quindi esatto, sta pompando soldi per rubare fette di mercato a Steam. E ricordati che dietro chi c'è? C'è la Cina, e la Cina sono 1 miliardo di persone. Se tu prendi l'Europa e gli Stati Uniti non raggiungi quelle cifre di... Allora, un miliardo però aspetta, cioè, facciamo sempre la distinzione tra chi accede veramente a un certo tipo di... Cioè... Su quel miliardo probabilmente, anche se sono la metà, sono già tanti. Sono già tanti, beh certo. Sono il doppio dell'Europa e degli Stati Uniti messi assieme, e in Europa e negli Stati Uniti non è che siamo tutti che giochiamo, quindi è un mercato enorme e alla fine dove i piccoli numeri o i grandi numeri fanno la differenza. Ma infatti io ho la sensazione che se Microsoft per Xbox e Steam facciano un accordo, ragazzi, cioè cambia tutto veramente. Poi Dopo 3 generazioni che ci raccontavano la balla della macchina definitiva, Xbox può diventare un po' l'oggetto universale da sto punto di vista, secondo me. Però Steam, quando ci ha provato con le Steam Machine, bene non è andata. Perché ovviamente si inserisce in un mercato che non è il suo, che poi è la stessa cosa che abbiamo detto di Microsoft quando ha fatto uscire la prima Xbox. Mo che vuoi che ne sappia Microsoft del mondo dei videogiochi? La prima benissimo non gli è andata, poi hanno recuperato. Ma la prima Steam Machine era uscita un periodo che non c'era la tecnologia. La tecnologia basata era un Raspberry poco meno potente e si basava sul protocollo H264, che non è così ottimizzato come l'H265 che si usa adesso, quindi c'erano proprio limiti tecnici per funzionare bene solo se eri su una connessione LAN a casa, non potevi giocare in remoto per esempio, cosa che puoi fare adesso con Stadia per esempio. Le tecnologie sono molto cambiate, oramai la possibilità di giocare in remoto senza che te ne accorgi di differenza lo puoi fare se hai una PlayStation 5. Io spesso sono fuori casa o nella mia seconda residenza e mi connetto alla PlayStation 4, alla PlayStation 5, 2 case diverse, e gioco sul gioco che ho lasciato sulla PlayStation 5. E non noto nessuna differenza né di lag né di nulla. Noti nessuna differenza comunque. Quando c'hai 2 connessioni fibra non ha... No? Ah, Umberto, lui vive in un paese civile. Lui non vive in Italia, esatto. No, assolutamente. L'ho provato anch'io, no? In effetti funziona benissimo. Ragazzi, l'input lag sta anche sulle macchine fisiche che ci avete sotto mano. Come vuoi che non ci sia un lag, per favore? Il lag non te ne accorgi? Ce n'è poco, io me ne accorgerei per esempio. Ma dipende anche però il grande pubblico non lo percepisce. Sono d'accordo, però non facciamo passare che l'input lag non c'è. Cioè, quello non voglio. C'è per forza, però funziona discretamente. No, diciamo che se non. Io adesso devo dire la verità, non l'ho mai provato con giochi ultra tecnici, dove ovviamente il sincronismo deve essere impeccabile o via dicendo. Però per quello che ho provato io in generale. La percezione, cioè è chiaro che il lag è fisiologico, cioè non è che. Però è vero pure che lì ci sono poi tutta una serie di tecnologie predittive che diciamo tengono in considerazione quello che stai per fare, quindi c'è tutta una serie di post elaborazione dietro che sì, fallo con i Caruga però. Però quello che dico è che poi alla fine, comunque, quando io ho provato determinate cose, anche più o meno veloci, devo dire, la percezione non ce l'ho avuta. Cioè, poi che ci sia. In verità dipende, posso dire anche Vai. Che dipende da cosa giochi, perché tendenzialmente quando giochi a un gioco 3D te ne accorgi un po' meno. Cioè questo... Io ti faccio l'esempio pratico, gioco spesso Horizon Zero Dawn non mi accorgo della differenza tra giocarlo live, ma il tipo di gioco. Se giocassi per esempio a Super Mario Smash Brothers, probabilmente lì sarebbe ingiocabile, perché lì sai già che quel tipo di gioco un professionista non gioca con il wireless, ma usa il cavo e taglia pure il cavo per farlo più corto possibile per ridurre il lag. Ma usa anche i controller cablati. Sì, cablati, ma col cavo corto. Però nel cervello, cablati nel cervello. Però ecco, questo diciamo che non è una fetta considerevolissima del mercato, possiamo dire tranquillamente, credo, no? No, io direi che in generale, per quello che è l'intrattenimento, quello tripla A, quello più tra virgolette semplificato, cioè diciamo che oggettivamente oggi il videogame, cioè quello diciamo mainstream, quello che alla fine va ad intrattenere molto di più la grande stragrande maggioranza della gente, oggi non richiede, a meno che non stiamo parlando di grossi casi, una tecnica, voglio dire, così sopraffina dal punto di vista dell'applicazione del giocatore, no? Quindi ci sta che queste cose funzionino a menadito su un sistema clouding che è, secondo me, il sistema progettato per questo tipo di cose. Chiaramente se devo giocare al gioco ipersincronizzato in 2D, come abbiamo detto, probabilmente ci sarebbero maggiori difficoltà, ma non penso, come ha detto giustamente Arturino, che chi fa quel tipo di gioco non penso se lo ponga proprio minimamente il discorso. Ma infatti volevo dire questo, io non sto dicendo che sia ingiocabile, dicevo solamente non facciamo passare il messaggio che il lag non ci sia. Ma è tollerabile, certo, magari. È fisicamente impossibile che non ci sia. Cioè, comunque io do un input ed è arrivata qualche parte e quel qualche parte mi deve restituire un output. Quindi cioè, comunque sia, voglio dire, c'è un viaggio in mezzo. Comunque. Sono andati a fare gli scippi. Ma più che altro, poi voglio sentire anche il parere di Marco. In chat Gianluca ci chiede: Puccio, adesso devi dire Games of the Year in francese. No, non so, ma non in francese, con l'accento francese. Ma manco se mi paga. Sto cercando di disinstallarmelo dal cervello. Le Game of the Year. Game of the Year. Prego? Sapere l'unica due volte in cui mi è servito il francese? Una volta che stavo in una call e c'era un collega che parlava dalla Francia, infatti, e diceva una maniera un di call, francese, sicuro collega, che nessuno lo capisse, e io gli ho detto: guarda che io ti capisco, e si è fermato. L'altro, sempre in ambiente lavorativo, a Bari c'era un camionista che era venuto a lavorare per seguire una donna dalla Francia che si divertiva a insultare i colleghi in francese, e io ho spiegato ai colleghi cosa gli diceva. Sono state le uniche due volte era goliardico, e tu invece no, era stronzo e razzista, e io gliel'ho fatta pagare, scusate. Ricordiamoci, insomma, le jeux de l'année. Comunque, ecco, le jeux de l'année. Per esempio, a me, cioè io per esempio ultimamente mi sto ponendo, vabbè, voi dicevi che se tu sei un encefalitico, non conosci le cose, tecnicamente sei diventato schifo, cioè una volta ci capivi, oggi non capisci più un cazzo perché sei diventato un fottuto vecchio, no? Però, per esempio, io tante volte adesso ho il proiettore e vorrei giocare dei giochi con Michela, no? Perché Michela gli piacciono i giochi... Quelli che fa morire le persone. Quelli tipo David Cage, Telltale, questi qua, insomma. Noi piacciono quelli perché so, comunque c'è la storia dietro, non so, difficile da giocare. E però, alla fine, io ho il PC in una stanza e il videoproiettore in un'altra, no? Quindi io dico, a me se qualcuno mi facesse un PC fatto bene, come l'idea magari che sta dietro la console, questa nuova di Steam, sì, che io me la appiccico al videoproiettore, non devo fare altro e gioco, cioè posso giocare, mi installo i giochi di Steam, la mia libreria Steam, e ci gioco, no? Alla fine, voglio dire, sarebbe un po' il sogno della mia vita, però poi alla fine ovviamente ci devono essere i compromessi, perché un software, cioè un hardware del genere che costa, quant'è, 690 euro? Vale, no, che... quello base sta intorno tra i 400 e 500. Vabbè, escludi quello base, che sicuramente sarà una zozzeria. Quello base sarà la memoria, praticamente. Ho visto appunto, una roba. Cioè, praticamente inutile avercelo, no? Quello base, no? No, ci giochi gli indie proprio, quelli scherzi. Esatto. Ecco, quindi andiamo a quello top di gamma. Sta sui 700 euro, insomma, alla fine. Se più, scusa, ma esistono soluzioni molto più economiche. Ma anche lo stesso Steam Link. per dire. Esatto, c'è lo Steam Link, poi usano il Raspberry Pi con Simone, ti mando Moonlight. Ok, mandatemi un qualcosa che faccia questa cosa, perché Moonlight, chi di voi l'ha provato? Io ci volevo provare, ma non lo Steam Link mi lagga a me, per dire. Vedi? Meglio di sostituirlo con Raspberry. Ma diciamo, chi è che ha provato la Moonlight, perché mi incuriosiva, ma Moonlight l'ho provato su cellulare, però quando avevo Android l'ho provato. Altrimenti puoi cambiare, c'è ancora la PlayStation 4. No, non ce l'ha più. Perché altrimenti nell'altra stanza mettevi una PlayStation Vita TV. E puoi giocare ai giochi della PlayStation. Ma perché ancora esiste la Vita? Sì. La Vita TV, sì. Adesso è molto ricercata, i prezzi stanno salendo di tanto. Io ce l'ho, la vuoi Simone? Quanto mi dai? No, io non so neanche cosa sia, quindi come posso pagarti una cosa che non so cosa sia, insomma, quindi... Ci giochi una PlayStation 4 in LAN, diciamo. Vabbè, comunque a me quello che mi interessa è giocare libri di Steam sul videoproiettore. Ma al di là di questo, poi dopo in separata sede tutti mi direte qual è la migliore soluzione, senza dover sbattermi, fa cose, collegamenti. Attacca il proiettore al computer. No, il computer sta dall'altra parte, quindi cioè non si può. No? HDMI lunghissimo. Ho preso un enorme e poi il controller, scusa, è la stessa cosa. Il problema se vuole sempre. A me sembra un dispositivo USB molto lungo. Un fottuto dispositivo che stia lì appiccicato con il controller in mano a Michela e giocare ai giochini. Comunque, se devi giocare ai Telltale vai benissimo con lo Steam Link. Comunque, tornando a noi, ecco questa proposta di Steam, che poi alla fine, da quello che ho capito io, stiamo parlando di un PC insomma alla fine compatto, con dentro tra l'altro una sovrastruttura un po' particolare dal punto di vista software, perché da quello che ho capito c'è comunque un Linux dentro che poi virtualizza Windows, cioè come funziona? Aspetta, perché quindi c'era il problema, lo spreco di risorse è infinito, cioè. No, avete presente che prima abbiamo citato le Steam Machine? Sì. C'avevano un problema, non potevano usare le DirectX, quindi c'erano alcuni giochi che di sta cosa risentivano. Cioè funzionavano solo i giochi di Linux, ossia il 10% della libreria. Tutta una serie di giochi che poi Steam emulava in vari modi, però di usare nativamente le DirectX suca. Ora, diciamo, hanno capito la lezione e quindi pare che il substrato software che muove tutto quello che c'è là dentro permetta di, vabbè, in realtà non è chiarissimo, però io su un paper ho letto che addirittura dovrebbe funzionare con una variazione della tecnologia dei container. Siccome si può containerizzare, cioè creare delle micro macchine virtuali, non solo macchine virtuali, ma semplifichiamo, pare che riescano a riprodurre le funzionalità di Windows usando questo tipo di tecnologia, senza però la necessità di installare completo Windows all'interno del sistema. Come poi questo nella realtà renda in termini di prestazioni, boh, tutto da vedere, però. In realtà è una parte del nuovo kernel di Windows 10, perché esiste Windows for Linux. La Linux Subsystem 10. Esatto, e adesso è uscita una nuova versione che supporta il GUI, quindi puoi far girare le applicazioni. Sì, ce l'ho in beta sulla macchina, sì. Esatto, sì. Fanno chiamate dirette al kernel. Vabbè, ma la sostanza è, vale la pena? Che tipo di hardware c'ha? Dal punto di vista grafico, che cosa gira? Cioè... Questo è un po'... Cioè, è ARM probabilmente, come diceva Arturino. ARM vuol dire tutto e niente, dipende che ci hanno ficcato dentro. E ancora non è proprio chiarissimo. Ah, non si sa, ok. Quindi non ci sono le specifiche di questo attrezzo. Sì, ci sono, però... Vabbè, può ipotizzare, probabilmente con kernel non esistono benchmark, non esiste test, non esiste niente, insomma, quindi... No, c'è qualche paper che ha fatto girare Steam in cui spiega il fatto che simuleranno le funzionalità di Linux tramite emulazione, parlano di una tecnologia che somiglia molto a Docker e poco altro. Non è neanche chiarissimo se poi quella macchina la puoi collegare direttamente a un televisore. Io ho capito di sì, speravo di sì, perché sì, sennò... sì, io ho visto che può essere utilizzata anche come PC, quindi però cioè... non si è capito se c'ha un dock in cui la devi infilare come la Switch o se basta che gli attacchi un cavo. Io ho capito un dock, però ho letto molto distrattamente, adesso non vorrei dire cazzate. No, combacia con, ecco, con quello che ho detto. Umbè, tu che ne pensi di sta crocco, che tra l'altro c'ha, cioè, il prezzo, lo puoi comprare ma non si sa neanche che cazzo è. Sì, sì, no, però devo dire la verità, ammattizza a me. Ti interessa? Cioè, il pensiero di poter avere tutta la mia enorme libreria Steam di cui ho giocato, sì, forse il 10%, ma anche di meno io, cioè, nel senso. E magari è successo potermi giocare qualcosina, mi ammattizza. A me ammattizza il fatto che è portatile, non che è una Steam machine. Cioè, alla fine ammattizza quello, nel senso. Beh, io però ho visto che ci stanno già dei mini PC portatili per il gaming, cioè, ho visto insomma che in chat l'altro giorno mi avevano fatto vedere delle cose, insomma. Sembra che le prestazioni di queste saranno migliori, cioè, poi dipende a cosa ci puoi giocare. Se ci posso giocare solamente agli indie che ho là sopra, lascia il tempo che trova, cioè anche per quel prezzo, diciamo, no? A quel prezzo lì voglio, non mi posso aspettare un PC da gaming desktop, naturalmente. No, però, no, però comunque 700 euro cominciano ad essere soldi, cioè non è che. No, però con 700 euro sono soldi, però se l'hardware è buono li vale anche, cioè dipende tutto sì, da come sì, se quello è, infatti, che li deve valere, appunto. Cioè se tu oggi Steam, che a me dal punto di vista dell'affezione hardware non mi sei niente, mi chiedi sulla fiducia 700 euro, chi te se incula? Però devo dire che a me mi interessa. Tu Gualdi potrebbe interessare? No, con la storia passata meglio aspettare, dati trascorsi meglio. Sì, sì, appunto. No, però tornando a Gualdi, tu dici no, però se con 700 euro tu ci avessi un hardware che è superiore al tuo PC, che non ci vuole tanto. Cioè, con 700 euro ce l'hai, mi rifaccio mezzo PC? No, cioè non mi interessa. Beh, non te lo, cioè, il problema è che oggi sono cambiate le motherboard, sono cambiate RAM, sono cambiate, cambiato tutto. Tutto, cioè, quanto, perché è del Dio. Quindi 700 euro, insomma, manco due spicci, insomma. No, non per so. Per giocare che cosa? Cioè, io dubito e che questo riesci, è il problema. Io dubito che con questo 700 euro riesci a fare quello che fa un PC ultra performante, insomma, non lo so proprio che questo è il problema. È vero che Steam c'ha i soldi da buttare, non è motivo di buttarli, non ho neanche capito bene che cazzo è questa cosa, io ancora non l'ho capita che cosa è praticamente. È una console portatile, come lo Switch, cioè come lo Switch, sì, esatto, di Nintendo, soltanto che è un PC con tutta la libreria di Steam, cioè con la tua libreria di Steam. Quindi ovviamente okay, prestazioni ridotte. Scusate, però avete letto da qualche parte che garantiscono la compatibilità con tutti i titoli? Perché questo già che machine iniziali qualche problema a questo punto ce l'aveva. Che poi è molto probabile che lì ci sia stato Gabe Newell, che abbia visto i dati di vendita, ha detto: cazzo, ci sono 25 milioni di stronzi che negli ultimi mesi si sono comprati una Switch nonostante l'hardware di 7 anni fa, e noi che siamo più stronzi di Nintendo a non vendere una portatile. Però non sono Nintendo, intanto, ecco, sì, prima di tutto non sono Nintendo, non sono neanche Sony e Microsoft. Loro hanno costruito il business su uno store che è diventato gigantesco, nel bene e nel male, poi perché poi la faremo, sì, quando alla prossima stagione, la puntata che volevamo fare sulla merda, esatto, insomma, perché veramente Steam, ragazzi, è, cioè, se io sono un ragazzino, uno poco esperto, che voglio comprare il videogioco per mio figlio, ma sai quante cagate compro e non me ne rendo conto? È veramente, cioè, questo no, costa 0,99. Umberto, ma cioè, per capire, tu che esperienze di pubblicazione su Steam sicuramente ce n'è più di noi, ma la battaglia per superare lo strato di guano che copre metà dei prodotti Steam, cioè, è gestibile, oppure qualunque sia il livello del prodotto che stai pubblicando rischi l'affogamento in mezzo a 100 miliardi di titoli fatti? Guarda, io non so dirtelo davvero, perché noi abbiamo un titolo un po' particolare, comunque noi siamo partiti con Greenlight, che faceva in modo che tu partissi già un po' avvantaggiato, con una base, perché una volta che eri entrato in Greenlight vuol dire che qualcuno ti aveva votato, quindi quando uscivi qualcuno interessato al tuo prodotto c'era. Oggi io do 200 euro, mi pare. Se ho 1000 euro posso pubblicare 10 giochi con un livello, tanto il controllo che fanno loro è vedere che parta il gioco più o meno. Infatti, appunto, ne parleremo in una puntata specifica, quindi è inutile parlarne adesso, insomma. E te invece, ecco, sentiamo pure Diego e Arturino su questa questione della console di Steam, perché devo dire, poi alla fine di approccio. Se un giorno mi fanno vedere qualche cosa e ci sono dei benchmark interessanti, potrei essere indeciso tra quello e l'Xbox, devo dire la verità, perché comunque io che volevo dirti io, cioè nel senso che in questo momento sì, l'idea è bella, ma fondamentalmente non si sa un cazzo, quindi è questo certo. Abbiamo visto il trailer, non il film. No, in realtà sono uscite specifiche, quindi non è un ARM, è X86, è un Zen 2 di AMD con 8 RDNA come processore grafico, però devi pensare alla potenza della CPU, sono 15 watt, quindi io lo considero sempre un portatile di bassa categoria. E lo schermo è un poco più di un 720p. Sì, sì, quello lo sapevo. Non sì. Ti è puoi tipo aspettare l'OLED della nuova Switch, lo stavo leggendo. Esatto. Quindi il principio è che non avrai la stessa cosa di un computer potente da casa. Vabbè, è una cosa d'accesso allora, cioè tu mi dici questa è la console d'accesso. No, è proporzionato al display, cioè non ha senso avere la potenza per fare un 4K se poi mostri un 720p. Insomma, quello certo, è chiaro, certo. È un casual gamer, io penso che può andare bene. Che ma casual gamer da 700 euro, raga, chi te sei, cioè, vuoi dire. Ma anche il casual gamer. No, è un portatile, cioè 700 euro ti compri un portatile medio. Qui c'hai le CD, una scheda Intel, esatto. Sì, però vabbè, voi state facendo il discorso di collegarlo alla TV, sicuramente collegato alla TV secondo me non ci sarà poco da fare, però secondo me portatile può funzionare, io lo ragionavo portatile, cesso, sì, cesso, però no. Cioè, scusate, portatile, usarlo in prevalenza portatile vuol dire che con quelle caratteristiche, con quello schermo, non è che ti metterai a giocare a Cyberpunk là sopra. Giocherai a roba tipo, che ne so, Hollow Knight, per capire. Però a sto punto, cioè, siccome quei giochi escono tendenzialmente multipiattaforma, cioè io quando sono stato indeciso, no, sul gioco, me lo voglio giocare quando sto in giro, me lo voglio giocare sul cesso, vabbè, non me lo prendo su PC, me lo prendo su Switch. Calcolando quanto ha venduto. Tu quanti Humble Bundle l'hai preso nella tua vita? a secchioni proprio. Cioè. Io c'ho l'abbonamento. Anche io non voglio neanche mettermi a contarli. Aspetta, perché sì, però fate parlare Umberto, però scusami, io ho tanti giochi, ho anche ricomprato su Switch perché volevo giocare i portatili. Se mi compro questa cosa li tengo già lì, hai capito? Sì, questo è giusto. Sì, però io sono d'accordo con Umberto di base, però oggettivamente, cioè, dico che okay, a me mi va bene che sia l'oggetto portatile, cioè non pretendo più di tanto, quando sta successo c'è gioco, però sono sempre 700 euro, raga, cioè proporzionalmente, soprattutto quanto vuoi cacà, io cago 700 euro, cioè, no, infatti se devi diventare 700 euro per il portatile basta per cagare è veramente, io li ammortizzo anche presto, guarda. E anche con piacere. Bello, dipende da quanto effettivamente hai di tempo di defecazione medio. Bisognerebbe fare un caso. Scusate, stiamo finendo come la puntata di Silicon Valley in cui discutono dell'algoritmo in e out. Vabbè, vedete, però. Vabbè, comunque. Allora, immaginate quelli di Steam che si calcolano il tempo di cagata medio di un essere umano. Dice, quindi c'è gente che potrebbe giocare ai videogiochi 20 minuti al giorno. Se lo mettiamo a questo prezzo, ne vendiamo X e ci giocheranno 8 ore a settimana. Cioè, l'hanno fatto il calcolo. Sì, sì, tutto Gabe. Sicuramente ce la faccio di uno che caga tanto. Lì. Comunque, la domanda definitiva è. Dato che difficilmente arriverà qualcuno, andrà da Marco Gualdi e dagli 600 euro per comprarsi una console obbligatoria, non c'è vero, non c'è via, o la droga, come può fare Marco Gualdi a giocare a Red Dead Redemption 2 che ha comprato ma i tempi non sospetti, gli parte a 5 fotogrammi al secondo senza texture. Sì, sì, gioca in wireframe, esatto. Non ti resta di comprare una Titan usata. Attenzione, devi comprare la Titan usata, non so cosa sia. No. Ma forse si deve cambiare anche l'alimentatore per mettere la Titan. L'alimentatore è quello, l'alimentatore, l'ho messo in conto. Ci pensa lui, l'alimentatore lo fa lui. Pedala. Lui ha comprato quello strumento cinese che deve, tu appoggi i polpastrelli, sudi, e con il sudore praticamente si carica. Si carica, esatto. Quindi, mamma mia. Penso se te lo metti sotto il culo, che può succedere? Cioè, proprio c'è la partita tutta casa. L'eleganza, soprattutto l'eleganza, l'eleganza di parlare di cose sudate di sotto il culo. Boh, la famosa sudata sotto palla, lo so, capito. Potrebbe magari milioni di terabyte, no, scusa, di terawatt, cioè, che vengono prodotti dall'essere umano, esatto, mangiando del silent green. Vabbè, ragazzi, c'ho l'ictus. Silent green. Soylent Green, ok. E vabbè, quindi se devi comprare una Titan, tu, capito? Non mi raccomando, guardi, perché dai, insomma, io non sopporto da quando. Quanto costa? Saranno 4-5 mesi che ho comprato questo gioco. E so io. Quanto pizzi? C'è stato il COVID ancora, cioè, quindi. Secondo me fai prima che non esisteva il COVID. Ah, no, davvero? Credo di no. Quindi, c'è ancora gente che diceva in televisione: no, è un influencer. No, lui dice che lui l'ha comprato da prima che scoppiasse la questione del COVID. E quindi sarà più dell'anno, insomma. Più dell'anno. Io penso che in quest'anno ogni tanto ci penso al fatto che tu c'hai sto gioco e non ci vuoi giocare. Ci posso giocare. Io invece non ci penso mai. Me lo ricordi, ci penso per ricordarmi. Sì, io lo ricordo perché secondo me è un trauma che non riuscirò non mai a superare. Non è da te, soprattutto. So, comprare cose che non puoi giocare, insomma, tutto sommato. Di solito io gioco cose che non posso comprare. Esatto. Tu giochi, tu perché le prima. Lasciamo perdere. Comunque. Detto questo, ma a proposito di Steam, ragazzi, vabbè, non perché c'è Umberto, questa è una cosa che avremmo fatto e che nei prossimi giorni torneremo a fare in maniera abbastanza massiccia come abbiamo già fatto nel passato. Voi sapete che Umberto ha pubblicato di recente, insomma, oramai sarà qualche mesetto, pochi mesi, giusto? Non c'era il COVID. Non c'era il COVID. Ma lui, per lui non c'è mai stato il COVID, quindi è importante questo. Allora, saranno 4 mesi che è uscito. Prego, dillo tu. Dillo. Io lo farei dire a Puccio, in realtà, perché c'è questa pronuncia. C'è la pronuncia in inglese. Allora, Chronicles of Ismuth. Ismount, giusto, Mountains of Madness, giusto, quindi Le Montagne della Folie. Però la prossima volta devi fare un gioco che si chiama Ugo, te l'ho già detta sta volta, perché allora ci riprovo, allora Chronicles of Chronicles of Ismount. Aspetta, facciamolo dire a Gualdi, vai Gualdi, dillo tu. Le Chronac de Innsmouth, esatto. La montagne della follia. Della follia, esatto. Okay. Comunque, vai. Vai, Umberto, dillo tu per favore, che sennò insomma, non rendiamo onore alla cosa. Chronicle of Ismuth, Mountains of Madness. Vedi, ma io voglio spezzare una lancia nei confronti di Umberto, che ogni volta che parla di sto gioco, Simone sembra che non so, si chiama con un nome. Vabbè, ma lui tutte le notti ci esallina a dirlo, capito? Cioè, non è che. E poi è il gioco che ha fatto lui, io. Cioè, quando voi mettete troppe consonanti una appiccicata all'altra, vi do un'anteprima, forse il prossimo è più facile. No, meno male, meno male. Comunque, ragazzi, allora poi lo rimettiamo sempre nelle note dell'episodio. Comprate il gioco se non l'avete comprato, prima di tutto, perché se non l'avete comprato siete dei stronzi, e questo lo sapete, questo è un mio pensiero inutile, perché poi al di là di quello che è la qualità, ma perché è l'amico, sì, beh, saranno pure i cazzi nostri, perché il gioco, oltre a meritare, comunque va sempre sostenuto quando è un progetto di persone che ci hanno lavorato, che sono italiane, che conosciamo, insomma, voglio dire, questo prima di tutto. E poi quando l'avete comprato e l'avete giocato, fate la fottuta recensione, perché è importante questa cosa, perché chiaramente aiuta il gioco ad emergere, come tutte quante le indicizzazioni su YouTube, quando andate sul video della tizia lì. Il gioco è molto bello, quello che peccato che non riesca a pronunciarne il nome. Esatto, il gioco dal nome misterioso, a me ignoto, è veramente molto bello. Infatti, come si chiama quella che muove il culo su YouTube là? Se ne fosse una. La Lamborghini là. Sì, sai, una cosa complicata su internet. La Lamborghini. Vabbè, che tu insomma vai lì e gli scrivi quanto sei buona. E tu a forse scrivi quanto sei buona, dai. E poi a te, questi video giustamente si indicizzano e fanno un sacco di soldi. E la stessa cosa deve succedere anche per i giochi indipendenti, tipo Mountains of Madness, giustamente. In cui Umberto muoverà il culo per far vedere, per far aumentare. Io non lo voglio. Il finale segreto con Umberto Nudo, non lo voglio vedere. Comunque stava a fare una cosa seria, stava a dire una cosa seria, importante questa questione, e io da domani insomma comincerò a fare un discorso un po' a tappeto, perché insomma è stupido il fatto di non sostenere un progetto che è un progetto anche amico, no? Cioè, nel senso, tutto sommato. Poi, oltretutto, mo, al di là del fatto che uno si deve sentire in dovere di farlo, e non è proprio così, ma il gioco è un'avventura grafica che sicuramente, magari per quelli che sono un po' più abituati allo sparaspacchia, magari può, può sembrare, però, cioè, in realtà è divertente, cioè, è divertente nel senso che il gioco è interessante, la storia è figa, poi insomma ti mette pure un po' diciamo, io voglio dire che Umberto non lo conosco personalmente, ho già comprato Mantles of Madness, ho giocato il primo Chronicle of Innsmouth ed è un gioco godibilissimo e veramente bello. Ecco, l'hai fatta la recensione del primo gioco? L'ho fatta. Ah, ok, mi raccomando ragazzi, è una cosa seria, perché quindi adesso Arturino stai già su Steam, giusto? A comprare a parte gli scherzi, comunque, se l'avete giocato e vi è piaciuto, se ci lasciate una recensione ci fate un piacere, ma sapete perché? Perché le recensioni buone ci sono, però naturalmente buona parte di queste vengono da Kickstarter e Steam non le conteggia, perché le chiavi le abbiamo distribuite noi. Quindi, e questo è un cacchio di problema che... Ah, cioè, quindi mandagli un messaggio ai tuoi amici di Kickstarter, ridi, scrivere anche su Steam, non possono? No, possono, scrivono, ma non vale come media, non fa media. Cioè loro avendo partecipato al Kickstarter, a loro gli sono state date le chiavi del gioco, e dato che le chiavi del gioco gliela date Umberto, per Steam quelle recensioni non valgono. Perché non ci hanno preso una lira, quindi va bene. E anche corretto da un certo punto di vista, no? Sì, tutto sommato sì. E le ridistribuisce, però è un po' un'inculatura, perché alla fine, cioè, se vedi le recensioni che dice questo prodotto è stato ricevuto gratis, sono abbastanza, hai capito, quelle di positive, però non fanno media, quindi basta uno che poi ci stanno sempre, che poi in realtà non è vero che sono stati dei backers di Kickstarter, lo so, ma Steam magari non gliene frega un cazzo, cioè, nel senso, che se non prendono loro i soldi non è mai esistita questa, esatto, cosa. Sì, ma forse è anche un po' quello, perché poi vabbè, comunque dai, bisogna dire la verità. Cioè, questo è un meccanismo che andrebbe anche un po' perfezionato, perché Steam deve essere comunque a conoscenza che il gioco è frutto di un'operazione tramite Kickstarter, no? E deve tenere in considerazione anche il fatto che comunque tutto quello che arriva è derivato nei primi tempi, è comunque derivato dell'operazione di Kickstarter, e quindi il fatto che non lo tiene in considerazione è un po' un limite. Però diciamo che, al di là del fatto, come tutti quanti i prodotti, chiaramente per ragioni di simpatia, perché comunque il mondo è anche pieno di cretini, capita che su 10 recensioni positive ce ne stanno 2 negative, però quelle 2 negative valgono di più, perché magari quelli nel gioco l'hanno comprato, cioè l'hanno comprato direttamente, non che l'altro non l'hanno comprato. E quindi le recensioni negative sono simpatiche, perché tu fai recensione negativa, spieghi perché non ti è piaciuto, è utile anche a me, no, per capire, dicendo no, è una merda, perché no, non compratelo a prezzo pieno. La recensione negativa, qualcosa del genere, sì, perché me l'hanno detto al telefono, perché io non vado a vedere se non mi incazzo, no? Sì, fai bene, fai bene. Cazzo. E quindi che cazzo? Cioè, no, ma a me sto fatto che tutti sanno quanto deve costare un gioco e hanno idea di quanto è costato sviluppare, mi fa impazzire. Ma questo secondo me questo però secondo me è un altro effetto collaterale di Steam, perché comunque Steam no, l'effetto collaterale di internet, perché sta roba la fanno su qualsiasi cosa, anche sì, sui ristoranti, sui libri, sui fumetti, sì, sui ristoranti. Non andate a mangiare a prezzo pieno, per dire, cioè, sì, sì, esatto. Mangiate la mezza porzione, come si faceva ai tempi di Totò, insomma. Niente, vabbè, questo è un po' una cosa, quindi poi noi metteremo, insomma, appunto le note dell'episodio, dove andare a comprare sia il primo che il secondo gioco, e mettete le recensioni, ragazzi, perché è una cosa abbastanza importante. Ma al di là di tutto ci tengo, voi sapete che ci tengo, quindi questi 1,5 milioni di persone che scaricano questo podcast, vi dovete sentire in dove, vi dovete vergognare prima di tutto, e vi dovete spaventare anche, cosa, che poi in un gioco... In un gioco come questo poi è anche appropriato, perché insomma dopo un po' ti spaventi pure, insomma, giusto? Si spera che dopo un po' ti spaventi, non tanto col primo ma col secondo. Sì, il secondo è più, se ti cali molto, perché il primo c'è, cioè, sta cosa che un po' ti trae in inganno, sembra un po' un Monkey Island con l'atmosfera strana, no? Perché c'era comunque quel tipo. Esatto, perché Cthulhu anche in Monkey Island, la scimmia a 3 teste, chi pensi che sia? Esatto, hai ragione, va bene. dai ragazzi, io vediamo un po' cosa, ecco, finiamo con una cosa semplice, una cosa stupida proprio così. Marco, cosa, beh, tu a parte il discorso di Red Dead Redemption chiaramente, cosa giocherai quest'estate? Beh, c'ho Uncharted 4, se l'ho già detto, vero? Che devo cominciare, la comincerò, prima o poi la comincerò. Mm. Poi c'ho Metro Exodus, basta. Cioè, poi altre Metro cose. Exodus dove lo giochi? È su Nvidia, su GeForce Now. Ah, ok. E poi, tra l'altro, poi ne abbiamo già parlato. Diciamo che lo streaming game di Nvidia secondo me è il peggiore. Proprio tecnicamente il peggiore. Ma è quello che posso permettermi. Sì, però diciamo che la qualità tecnica di streaming, di compressione del video, veramente terribile. Cioè, proprio ci ho provato anch'io un pochino. Devo dire, sì, va bene, perché comunque in certi frangenti sicuramente è meglio di quello che c'ho, che potrei permettermi. Però, la condizione di emergenza per me lo fa andare benissimo. Esatto, esatto. Quindi giocherai a Metro Exodus. C'ho quello, poi. E poi Uncharted 4. Esatto, poi probabilmente ritirerò fuori qualche altra cosa che ho lasciato lì da una parte. Sicuramente. Quante cose ti sei dimenticato? Tante, tante cose. Ok, devi comprare il gioco di Umberto, però. Non costa tanto. Costa. Quanto costa? Ma poi non lo finisco. E vabbè, fa niente, ora scrivi la recensione. 17,99. Ok, capito? Quindi insomma si può fare, no? Tutto sommato. Poi lo giochi un pochino. E poi dopo fai, perché tu lo so che con l'avventura grafica tu sei un po' terribile, però poi a un certo punto. No, mi fanno cagare semplicemente, però. Cioè non è, no, ma non puoi dire una cosa del genere. Un genere di per sé, in senso universale, non può far cagare. Cioè, no, il genere. Può non piacerti, cioè, può non essere montato. Ti piacciono gli FPS in prima persona, ma non dico che fanno cagare, cioè, nel senso. Non è che fanno. Non sono cagare. Giochi che io gioco, non gioco. Non è che fanno cagare, mi fanno cagare. Vabbè, ho capito. Cioè, no, insomma, diverso, cerca sempre di essere composto ed educato. Cose. Prima il culo sudato, poi mi fanno cagare. Mi fanno defecare a spruzzo. Che c'hai stasera, insomma. Vabbè, comunque, questi tre giochi. No, sì, questi due giochi più cose misteriose. Poi sto giocando a Odyssey, quella bella perla che ci ha tirato fuori Braben. Bravo, bravo. Applausi anche qui di Guano. Che cos'è Odyssey? Ah, l'espansione di l'espansione di Elite. Di Elite, sì. Ok, perché tu giochi a Elite, giustamente. A tempo perso. Il cane si è messo a dormire sul mio piede, così. Vabbè. E ti dice compra il gioco di Umberto, dice anche lui. Poi farà la recensione. E Puccio. Che capirai, te li sei comprati tutti i giochi? Quest'estate no, c'ho da comprato, preso in realtà in Early Access, ma diciamo me l'ero tenuto per quest'estate perché sapevo che avrei avuto un po' di tempo. C'ho un Metroidvania che volevo provare da un po', che è Ender Lilies, che è una roba un po' alla Hollow Knight, però diciamo con un approccio un po' diverso, molto carino, molto di atmosfera. Poi ci ho preordinato, come faccio per moltissimi giochi ambientati nell'universo di Warhammer 40.000, che è Battle Sector, che insomma promette molto bene, è un bello strategico alla XCOM, però ambientato nel mondo di Warhammer. E in più penso che continuerò a giocare online al nuovo Guilty Gear Strive, che insomma è un bel prodotto, molto per imbracchiati di picchiaduro uno contro uno. Sto prendendo un sacco di schiaffi giocando online, però molto molto divertente, molto tecnico, insomma ti tiene il cervello allenato e i riflessi anche. Ma che te lo fa fare, scusa, tutta sta fatica? No, quando c'è un figlio di un anno e mezzo che ti corre per casa, o c'hai riflessi allenati o sei morto, quindi insomma morto lui. Uno dei due è un uomo morto. Esatto. Devi saper parare. Ok, ok. Invece Diego. Ma io non so farò niente. Che ho bello. Caldo e non so assolutamente cosa giocare, cari ragazzi. Sono ancora orfano di The Last of Us 2. Ho provato con gli zombie di Resident Evil 3, ma era come andare in vacanza a Fregene dopo essere stato a Copacabana. Idem con come è quell'altro degli zombie della PlayStation, Days Gone. Sì. A Marco era piaciuto quello, Ah sì, comunque un bel giochino, dai. È stato, sì, beh, divertente, però ecco, non paragonabile, per carità. No, quello me lo sono anche due generi diversi, poi alla fine. Cioè, sì, in uno c'è la trama, nell'altro no. Ecco. No, c'è anche in quell'altro, però è un po' più proprio Tamara, insomma. No, vabbè, nell'altro la trama è piangere su una tomba, vabbè. Esatto. E quindi io sto, ho finito i giochi di zombie, adesso sono un po' in crisi. Ho provato a giocare a Battlefield 1, ma mi sto facendo abbastanza cagare, anche perché il tipo di gioco non è proprio per me. Quindi forse è la volta buona che finisco la... il dinamico 2 delle Croniche di Innsmouth. Bello, bello. E poi mi raccomando, se è un morto vivente almeno mi sento un po' meglio. Beh, certo, lì insomma delle creature un po' strane sicuramente ne trovi, questo vai tranquillo. E Arturino? Probabilmente rinizio, finisco Final Fantasy 7 Remake. L'episodio 1 ovviamente. No, no, il nuovo, quello su PlayStation 5. Quindi sì, quello con il, la parte aggiuntiva Integrate. Sì, ma è un po' legnoso, veramente non è, me lo aspettavo meglio. Altrimenti Metro Exodus o Phantasian su Apple Arcade. Phantasian, ma Apple Arcade, cioè lo possono giocare pure le persone con Windows? No. No, no, no. È specifico per iPhone e iPad. Ma quindi per me se brucia, devono bruciare tutti quanti. Posso. Però il concetto è molto diverso dagli altri. Cioè, devi immaginare come l'Apple TV, nel senso degli show curati a livello videogioco. Anche un Sudoku ti dà un'esperienza di gioco totalmente diversa. Vabbè. Sai che io non ti condivido quando dici queste cose, anche se sono vere, non le condivido uguale. No, no, però Simone, cioè, ha veramente ragione, perché io Apple TV ho fatto, ho detto che non condivido di un mese, cioè c'è veramente roba bellissima sopra. Ci sono una serie di documentari su Schultz e i Peanuts che sono da veramente da lacrime, e due serie TV meravigliose, una è Mighty Quest e l'altra è The Morning Show. Ah vabbè, sì, ma The Morning Show l'ho visto pure io, però senza averci l'abbonamento. C'è poca roba, ma è di qualità, anche dei giochi. Mi raccomando, questa cosa più... Certo, certo, Phantasian, devo dire la verità, che mi attirava, devo dire. Spero che non sia un'esclusiva totale per sempre o roba del genere, perché insomma sarebbe anche un peccato, tutto sommato, privare l'umanità di una cotanta bellezza. Phantasian quanto dura? Non è lunghissimo, mi pare dovrebbe essere sulla decina di ore, perché anche lì c'ho 3 mesi gratuiti che ancora devo attivare, perché poi di base ti sei fatto un iPhone, Umberto? No, ma io cazzi tuoi. dal punto di vista telefono passato ad Apple tranquillamente. Ricordo che scade la promozione. Sì, però scadeva quest fine anno forse. No, scade dal momento che compri il telefono, hai un tot di mesi per attivare i 3 mesi di gratuiti. No, io ce l'ho oramai, ce l'ho dal 2016, ancora c'ho la cosa attivi 3 mesi. Ah, okay. Sì, perché probabilmente sta lì. Va bene. Scadeva l'anno gratuito ad Apple TV, infatti l'ho attivato, quello lo scadeva. Però Arcade, però sono solo 3 mesi, non è un anno, ecco perché gli devo. Quindi tu Umberto, a che cosa giocherai? Cthulhu, stavi dicendo Cthulhu. Io giocherò, se ce la faccio, cercherò di finire in live Skyward Sword HD per Switch. Ah, l'hai preso anche tu? Sì, vabbè, bello. Ma io ero lì che attendevo. Sì, dite a Diego di riporre le stoviglie dopo, però. Perché... riporre le armi dopo. No, a me la cosa figa è che in realtà io ci ho riflettuto se comprarlo. In realtà è stata mia figlia a spingermi a comprarlo. Perché l'ha visto su YouTube, ha detto dai, sembra bello. Ho detto dai. È fatto bene, cioè, non so se l'hai già provato. Sì, no, sto al primo dungeon. A 60 fps sono un po' upscalate le texture, ma il gioco è bello. Il gioco era bello anche su Wii. A me piace. Sì, no, è uno dei miei due Zelda preferiti. Guarda, quindi me lo stavo giocando, ma forse quando finiamo qui parto pure su Twitch un'altra volta. Sai, quell'oretta, oretta e mezza alla sera, se ci si esce. Tanto devo lavorare, quindi dai, ti guardo. Io invece giocherò Ho già iniziato, però certo se ci fosse la traduzione italiana sarebbe meglio. Solasta, mi sto divertendo, non capisco un cazzo di quello che sto facendo, però mi sto divertendo. Vado, è bello. Il sistema di combattimento è veramente figo, il fatto che comunque Crown of the Majesty, yes. Cioè, che praticamente ci stanno comunque delle azioni che rendono anche più dinamico il combattimento, prendendo da ste nuove regole, poi spingete sotto la gente, insomma, gridando Sparta. Sì, sì, no, è figa sta cosa. Cioè, che... questo è in Monte Rotondo. No, diciamo che il fatto che a volte ci sono anche delle situazioni nelle quali puoi interagire anche con lo scenario, per tipo gli puoi tirare una roccia addosso. Insomma, devo dire, figo veramente. Ma di che si tratta, Simo? Che cos'è? Ah, è un gioco di ruolo... alla Baldur's Gate. Alla Baldur's Gate, sì, bravo, sì, esatto. Di questi, insomma, Dungeons and Dragons... dove puoi personalizzare tutti i personaggi, anche il party te lo puoi creare personalizzato. Esatto, e praticamente col combattimento a turni, però, insomma, con delle regole abbastanza avanzate, c'hai moltissime opzioni. Diciamo che... devi un po' entrare nel... ci devi un po' addestrare all'inizio, perché non è proprio così, così intuitivo. Simone, come hai chiamato i personaggi? C'è Paul. C'è sempre un Paul, questo lo sappiamo. E poi se... no, Simone Pizzi non c'è stavolta. Stavolta non c'è, ma diciamo che da quando esiste l'amico Paul... Simone Pizzi... ce ne sono di meno. Esatto. Ma addirittura... addirittura devo continuare a giocare un gioco che mi ha regalato poi Francesco, e Lobby Frontali, che è Atom RPG, che è praticamente Fallout 2, però con la grafica 3D, diciamo così, tra virgolette, ambientato, sempre stessa ambientazione, post-nucleare, nella società post-sovietica, non è neanche post-sovietica, nella società sovietica post-nucleare, quindi... è particolare, devo dire, è carino, molto carino, e anche lì c'è un certo Pavel, con un cognome un po' un po' russo, però finisce con Oski. Oski. Sì, un po' più lungo. Ah, proprio, diciamo, ed è bello quando ovviamente i personaggi ti chiamano. E insomma, vabbè, queste sono le mie becerate che faccio. E ecco, questi giochi, io gioco questi giochi qua, insomma, quindi alla fine fondamentalmente. E poi c'è stava un gioco che però sta soltanto su Epic Game. Tra l'altro io le ultime settimane mi sono perso i giochi gratis. Non c'era un granché. Infatti, no, poi io non prendo tutto, perché c'è a me il Bridge Constructor di The Walking Dead che secondo me fa cagare tantissimo. Ma che cos'è? Cioè, che cos'è? Devi costruire dei ponti. Cosa devi fare? Non per i ponti e farci passare le macchine. E che c'entra The Walking Dead con i ponti? Così era il tema. Ah, macchina. Però in compenso c'è Offworld Trading Company, che può piacere a Marco, già. Che gioca. Quando c'era il regalo. C'era un altro che forse era carino, che oltre a quello. Obduction. Sì, forse quello potrebbe essere carino. Obduction. Sì, dai creatori di Myst. Addirittura rimasti, accedi con Epic Games. Però c'è stato Sonic Mania qualche settimana fa, che mi piace. Scusate, ma se io ho preso su Switch, se io accedo su Epic Games, che adesso non lo aprivo da un po' di tempo e quindi mi chiede di accedere con il mio account, io non ricordo quale, ma se io accedo con l'account di Xbox Live, che succede? Niente, credo. Allora vaffanculo. No, ma scusa, l'ho appena scoperto che e l'ho anche riscattato, vedete quanto sono imbecille, che c'era su Epic Game Store A Short Hike, che se non l'avete provato, provatelo. A Short? A Short, io quando vado in Germania soprattutto. A Short Hike, è carino, è molto poetico. Va bene, insomma, questi sono. Sì. Sì, no, non me lo ricordavo, l'ho anche riscattato. Questi sono giochi che poi, ovviamente, con Michela, se riuscirò a trovare il sistema, ovviamente giocheremo. Giochi di paura. No, sì, giocheremo a Man of Medan sicuramente, e Little Hope, che sono i giochi che li dà The Dark Picture, sempre degli autori di Until Dawn, quindi Until Dawn. Che ovviamente, insomma, hanno fatto questi mini. Cioè, questi giochi, no, mini, in realtà. Questi altri giochi interattivi sempre a tema horror, che Michela impazzisce proprio, cioè lei urla mettendosi il joypad davanti alla faccia, e quindi ovviamente i personaggi muoiono inevitabilmente. Anche se mi pare di aver capito che rispetto a Until Dawn, diciamo che qui l'interattività è proprio più quasi da film interattivo, cioè c'è veramente poca, cioè almeno lì comunque dovevi cercare, esplorare, andare a cercare, vi ricordate c'erano i ceppi che te trovavi, i pezzi di legno indiani che te svelavano parti del futuro, roba del genere. Invece qui veramente è tutto molto più preordinato, diciamo tra virgolette, quindi insomma da tanti danni forse non li può fare. Però è bello perché cioè, veramente quando lei gioca a questi giochi interattivi bisognerebbe fare dei gameplay su YouTube, secondo me spaccamo proprio, famo milioni di visualizzazioni, perché poi impazzisce proprio, cioè entra nel panico, fa morire gente anche che non è prevista che muoia dallo script, cioè però lei riesce a farli morire anche quelli, insomma. Perché te non è lei che gioca al gioco, lei è nel gioco, lei lo subisce, è il gioco che gioca lei. Esatto. esatto è tipo Bandersnatch. tipo esatto, Sfrench Snatch. Bene. Dai ragazzi, io volevo fare questo finale di stagione giusto per stare un po' insieme e chiacchierare un pochino e chiudere. Come sapete stiamo chiudendo tutti quanti i podcast di Runtime Radio, noi non tutti i podcast, nel senso che stiamo andando verso insomma la fine della stagione, poi riprenderemo chiaramente a settembre. Questo è un momento in cui ci serve tantissimo questa piccola pausa, perché è stato un anno e mezzo lungo, impegnativo, duro, dove siamo sempre stati attivi, sempre stati live quasi, insomma, quindi alla fine siamo arrivati a un punto in cui staccare era proprio indispensabile. Mi spiace perché poi alcuni podcast magari sono rimasti un po' indietro, vedi Runtime by Night ad esempio, tanto che c'è Umberto qui, insomma, è a casa di citarlo, e magari ci siamo concentrati su altre cose, però poi piano piano li stiamo chiudendo tutti, stiamo chiudendo le stagioni proprio per arrivare a recuperare un po' un mese, prenderci quasi un mese insomma di pausa, ed era comunque carino farlo magari con una puntata di Ludico Forum a parlare, insomma, partire da un presupposto che è quello che ha portato ovviamente Arturino, per poi parlare di ben altre cose, tipo insomma cazzo di cane, col contributo fondamentale di Marco Gualdi, che come al solito ha sempre tante cose da dire. Tante, no. Te ne dico un'altra. Dimmene un'altra, dai. Prova a dire un'altra, magari, che ne so, parla dell'ascella. No, non saprei come mettere l'ascella su un videogioco. Però, come si mette, però ci puoi fare degli effetti sonori con l'ascella. Sì, esatto, bravo. Che sono quelli che poi utilizziamo in OGM per le sigle. Esatto, probabilmente ce n'è un'altra, dopo te la faccio sentire, e con l'approvazione di Alex Raccuglia, quindi allora la voglio sentire. Quindi ringrazio e saluto anche Arturino Mazzei, che è stato un po' diciamo il promotore di questa puntata. Ci ripromettiamo, se troveremo ovviamente modo e tempo il prossimo anno, perché comunque per lui magari è un po' più complicato, di fare delle puntate magari anche in archeologia informatica, perché ci avevamo dei temi, no? Dei temi interessanti sulle copiatrici una volta, i software di copia dell'epoca, insomma, in cui eravamo veramente quasi bambini, e cose insomma che potrebbero essere più o meno interessanti, cose che sono successe, quindi è inutile negarle. E grazie Arturino. Grazie a voi. E chiaramente ogni tanto noi lo cicciamo dentro, però stasera non era, la volevamo più polemico, ma non c'aveva la verve stasera, perché si stava a fare le lasagne, quindi era sconcentrato, diciamo, da questa. Ovviamente il nostro amico Diego. Grazie comunque di avermi invitato. Sì, ho fatto concorrenza a Gualdi. Almeno le lasagne. Buonasera buone. A tutti. Come sono venute le lasagne? Buone, spero almeno. Ho fatto la cosa di Rotto. Ah, me coglioni, ma tu te le tratti così da solo? Sì, beh, sai, io sono intelligente, faccio il pesce il lunedì, che nota ovviamente viene più buono il lunedì. Certo, e i gnocchi il martedì, giustamente. Esatto. Ringrazio e saluto Carmine Puccio Console, con il quale ovviamente apporteremo insomma una bella prossima stagione. Pensavo ai problemi della paternità da videogiocatore. No, vabbè, ma quello già ci sei passato, quindi è solo un bis allora, questo che stai facendo, insomma. Come penso c'è anche Umberto, che è bipadre anche lui. Bipadre pure lui, sì. diventa impegnativo fare dei giochi di un certo livello fino a che non crescono un pochino. Quando crescono poi dopo ritornano. No, quando crescono te incurano direttamente i soldi, i giochi e le postazioni. Esatto. Sì, sì, no, a me è stata inculata una Switch da mia figlia, ma anche da mia moglie che gioca ad Animal Crossing. No, ma questo è il poco. E quando tu un giorno andrai su Steam per comprarti il gioco che vuoi, non vedevi l'ora di giocare, e vedrai che nella carta di credito non ci sono più soldi perché i loot di FIFA te se so portati via tutto e non sei tu quello che gioca a FIFA. Questo insomma, è quello, no, che purtroppo... Infatti vedo Pietro che guarda il logo di FIFA con un certo interesse, che già gli brillano gli occhi, rodano le... E comunque ringraziamo e salutiamo ovviamente ricordandovi di andare a comprare The Mountains of Madness. Umberto Parisi. Grazie mille, grazie a te Simone per l'invito, grazie ragazzi per la compagnia e ci vediamo col fresco. Ci vediamo fra un po', insomma. Poi non è detto che magari una sera di queste ci parte la brocca e tipo verso le 11:30 quando arriva l'arietta fresca accendiamo e andiamo su Twitch, su Switch, su Slitch e diciamo anche cazzate, insomma. Bene, detto questo, grazie a tutti, grazie Marco, grazie a tutti quanti e ci vediamo alla prossima puntata e alla prossima stagione. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.